Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Oggi ho letto una cosa fantastica. In pratica hanno sviluppato delle latrine da mettere nei campi profughi in Germania per poter insegnare ai profughi come si usa il water, dato che non ne hanno mai visto uno a quanto pare. Queste latrine hanno un rialzo laterale tipo gradone per poterla fare alla turca, altrimenti si possono appoggiare i piedi come facciamo noi. Vedi, Parenzo, che persino i seriosissimi tedeschi pensano al modo migliore per fare la cacca. Guarda che è tutto vero, Davide, eh? Cioè la Germania no, per, letto, la, per tua soddisfazione sicuramente. In Germania lo fanno. Sarai contentissimo di questo. La Germania paese ha creato civile. La Germania, certo. Ha creato un WC, cioè un cesso per i rifugiati. Sì. Ho letto, cioè una specie di water multiculturale, una specie di water bellissimo, bravi. Geniali. Ma non ho capito per quale motivo, scusa, cioè ho letto che praticamente molti non riescono a fare a cagare con il cesso normale come abbiamo noi. Beh, cioè, devono avere una seduta laterale. Adesso io nel dettaglio non ho visto il disegno, no, di questo prototipo. I giornali tedeschi raccontano che nei centri immigrati l'igiene naturalmente è un problema. E naturalmente qualcuno si è ingegnato per venire incontro alle esigenze di quelli che non sono abituati a farla come noi. E magari non hanno mai visto un water come il nostro e quindi trovano delle difficoltà. Io trovo veramente una cosa incredibile. Beh, incredibile. Come è incredibile, notizia di ieri, che ci siamo un po' persi, ce la sapevo. Anche tu avresti difficoltà, secondo me, a, come dire, cimentarti con un famoso bagno alla turca. Ma, cioè, quelli ma in se piedi. Sono profugo, secondo te, mi interessa cagare in un cesso no, all'italiana, magari, alla tedesca, oppure no, vuoi... Una seduta laterale, un cesso fatto apposta in modo naturale per te, ecco, farlo in modo, ecco, questo va detto, farlo in modo, no, è vero, è così. Dobbiamo spendere soldi per far cagare meglio gli immigrati. Ma nessuno ti ha fatto spendere soldi a te. Come no? I tedeschi hanno deciso di andare incontro a queste esigenze e sono persone serie, che bravi. Bene. No, ieri c'era questa notizia incredibile dell'immigrato marocchino o l'avvocato per lui, non so chi, che ha denunciato, cioè che era entrato a rubare in una casa, è stato morso da un Doberman, morso da un Doberman, e ha denunciato il proprietario del Doberman. Ma ti rendi conto? Ho visto ampio risalto a questa notizia, dato mi pare dal giornale diretto da... Le Sallusti, in prima apertura. Beh, scusa, ma secondo te è normale denunciare il proprietario del Doberman perché Doberman ha morso il ladro? Infatti è cosa veramente grave. Ragazzi, in questo dai. Momento a Milano, ad esempio, vi posso segnalare questa notizia. In questo momento a Milano ci sono dei cammelli che pascolano, d'accordo, in Piazza Duomo. E usano praticamente la Madonnina come mangiatoia. Cioè questa è la Milano di Pisapia allora. Ma non è vero. E non questo è vero. Abbiamo scritto sul giornale oggi, che quindi è Milano di Pisapia. Ci sono cammelli in Piazza Duomo. Vabbè, comunque... E si voterà alle primarie, voglio dire solo. Però non voglio fare polemica, a parte queste... che non è vero, Sallusti. Non voglio fare polemica con queste merde di sinistra. Non voglio fare polemiche tra... Comunque ragazzi, tu perché non ti fa incazzare questa cosa? Che la giustizia italiana consenta a un signore che è un ladro di denunciare il Beh, proprietario di un Doberman che l'ha morso dentro la casa. Bisogna vedere se questa denuncia ha cioè, un no, seguito. Cioè, per te è tutto normale. Cioè, uno no, può fare una denuncia. Chiaramente, dai, su. E infatti diventa una notizia. No? Meno male che c'è la buona notizia della richiesta di proscioglimento per Stacchio. Quello che tu, insomma, non vedevi tanto di buon occhio. No, io ho visto di buon occhio il fatto che ci fosse un'inchiesta. E allora hanno accertato, vedi che la giustizia funziona, i magistrati hanno chiesto l'assoluzione di Stacchio, che ricordiamolo, è il benzinaio che ha sparato al rapinatore. Hanno fatto gli accertamenti, hanno visto che era una sorta di legittima difesa. Tu eri dalla parte di quelli che adesso fai il buffone. Dalla parte del fatto che se uno spara in qualunque condizione deve essere accertato perché, per come e tu eri dalla parte di quelli che dicevano lui che c'entrava con questa rapina di Stacchio. Io ho sempre detto non strumentalizzerei questi casi di cronaca, cosa che ripeto, e seconda cosa che dico è, anziché tu dicevi non ci deve neanche essere nemmeno l'inchiesta. Io dicevo vediamo l'inchiesta e poi vedrai che sarà assolto. Allora ragazzi, la questione padre Livio Fanzaga, Don Livio Fanzaga, direttore dei programmi di Radio Maria, che ha augurato la morte o comunque si è messo a ridere sul funerale della Cirinnà, prima o poi arriverà anche il tuo funerale, insomma la protagonista della legge sui gay. Fanzaga si è incazzato perché alcune radio, ma soprattutto noi, hanno mandato in onda il suo audio, le sue parole. Sentilo. Chi vuole criticare faccia pure, però lo fa. Prima di tutto il testo lo chiedono a noi, lo pubblicano con il nostro permesso e in ogni caso, procederemo contro qualsiasi falsario che devia la gente con informazioni che non sono conformi a ciò che è stato detto. A questo punto mi permetto di dire una cosa personale. Sappiate che questo commento alla stampa, dopo un'ora e mezza che è stato fatto, viene sempre pubblicato sul suo sito internet, che è www.radiomaria.it, è pubblicato senza ripuliture, così com'è, con la sigla di Radio Maria, quindi è proprietà di Radio Maria, a nessuno è consentito pubblicarlo in altre radio, in altri giornali, senza il nostro permesso, cosa che invece viene fatta, lo pubblicano tagliando, cucendo, deformando, e questo non è una cosa seria, non è una cosa professionale. Se sarà necessario, tuteleremo i nostri diritti, cioè. Questo commento alla stampa da tanti anni viene pubblicato sul sito INE di Radio Maria dopo 2 o 3 ore che l'ho fatto. Col copyright di Radio Maria. È un copyright, non può essere riportato, la mia voce non può essere riportata. Che cos'è, scusate, il copyright? Il copyright, il copyright, il copyright. No, ma in realtà la cosa interessante c'è nessuno copyright, è una follia questa qua. No, certo, c'è il diritto di cronaca. No, ma la cosa divertente è che anziché affidarsi alla cosiddetta giustizia divina, che è l'unica, si affida alla giustizia terrena. Cioè, questa è la cosa incredibile. Sì, il copyright, no? Uso il termine che userebbe lui, no? Cosa incredibile che la giustizia sia quella divina, che è quello che dico io, quella è Radio Maria. Cioè, non è che Cruciani, cioè, come si chiama quello lì? Quel benedetto del Signore, quello che è uscito dalla Chiesa, come si chiama lì? Crumiri, come si chiama? Quel demente lì, non voglio dire demente, ma insomma, quell'idiota, insomma, non posso neanche dire parole, insomma, quel cretino maledetto, quell'indiavolato cretino, idiota che fa su La Zanzara, come si chiama quel programma? Aiutami un attimo, che ha detto, non può riprendere le parole, non può. Poi addirittura spera che Padre Pio faccia da esorcismo ai parlamentari. Ah, questo senti, è buono, senti, eh? Senti. Questo è molto buono. E non mollano, eh? Si sono alleati PD e Grillini, neanche fosse il giuramento di Pontida, eh? Mamma mia che roba! Ma speriamo che la venuta delle reliquie di Padre Pio a Roma serva, non so io, sia un esorcismo per tutta la città, dico, per la città parlamentare, dico. Affittopoli a Roma, ragazzi, un'inquilina Fontana di Trevi, 90 metri quadrati, meno di 300 euro al mese, ma sentite quanto guadagna. Quanto guadagnate? Io guadagno intorno a 2.000 euro. Al mese? E lui 1.000. Quindi 3.000 euro al mese, cioè vi potete permettere pure un affitto un po' più corto. Però dopo i miei figli che li mantiene, loro pure li devo aiutare, che fammi mantenere lei? Beh ragazzi, questo è veramente il top, eh? 2.000 euro guadagna la moglie, 1.000 euro il marito, e poi dice 300 euro 90 metri quadrati, perché si tratta di cose tramandate di padre in figlio, chissà quando questa casa è stata assegnata, e poi i figli chi li mantiene? Tu capisci, no? Fontana di Trevi, 90 metri quadrati, 300 euro al mese, anzi meno di 300 euro, e hanno insieme uno stipendio di 3.000. Sì, sì. Ma perché non fanno un cazzo al comune di Roma? Sono anni e anni che questa situazione si trascina. Perché ci voleva il grande prefetto? Perché poi c'è la burocrazia che blocca tutto. A parte che il prefetto non ha fatto nulla, perché... No, ma perché ci vuole... Ma non ha fatto niente. Però, per, come nulla, dire, scartabellare... Ma assolutamente no, erano cose già note. E come erano già note? Erano cose già note. Perché lui ha istituito la commissione. Tanto note che però non se ne parlava. Ma perché non le sai tu, ma erano cose note che i cittadini, un cittadino in particolare, da tempo aveva raccolto tutti i dati. Cioè... Allora, senti un po' cosa dice un signore durante la discussione sulla legge Cirinà, un senatore che si chiama Aracri, signor Aracri, senti. Questo è un problema che riguarda solo le fasce alte della popolazione, riguarda quelli che possono spendere. Ed è collegata a questo mercato, c'è ovviamente questa schifezza che si chiama stepchild adoption. Stepchild adoption, stupenda. Adoption. Non adoption. Adoption. Un altro si chiama Consiglio, Lega Nord, senti. Se la doppia sessualità viene abbandonata, qualsiasi deviazione sessuale rispetto all'eterosessualità va intesa come normale. Al momento si parla ancora di gay, di lesbiche, ma una volta normalizzata queste deviazioni si presenteranno altri scenari e saremo costretti ad accettare pedofilia e poligamia. Traffico veicolare. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta La Zanzara. A Crucià, ma a me che va ascolto dagli Stati Uniti, che me frega del traffico? La voce della ragione si alza forte dagli Stati Uniti e non solo dagli Stati Uniti. A me fa diventare pazzo, Parenzo, questa storia di Padre Pio. Mi fa diventare matto, no, cioè che ci siano migliaia di persone, tra l'altro con invasioni dell'autostrada, ho letto da qualche parte, una città mezza bloccata, no, i fedeli che mettono le mani sulla teca, ma sono cose medievali, ma poi che è sta storia, ma perché è portato, perché che bisogno c'è di portare il corpo di Padre Pio? Sì, ma per risvegliare il giubileo, no, per risvegliare un'operazione di marketing, però qui urge una telefonatina, caro Parenzo, Lo so, tu direi, l'abbiamo già chiamato. Beh, a chi? Io, signor Toscani, proverei. Signor Toscani su Padre Pio. Non credo che sia a favore di questo. No, non, appunto. No, non appunto. Lo so, però. Aspetta, bisogna avere rispetto di queste fedi. Facciamo squillare sto telefono. Pronto. Oliviero? Chi è? Qui sei in fila per Padre Pio? Madonna, Padre Pio, guarda, me lo attaccate su quella mummia. Ma non è possibile. Chi è? Sei in fila per Padre Pio o no? Anche tu credo che tu sia in fila per Padre Pio. È la cosa più schifosa che io conosca. No, ma non si può dire. Ma, te lo dico, ma perché dici così? Tu sai che qualche anno fa, quando Renzo Piano fece la chiesa, sì. Poi parlando con i cappuccini dicevano: ah, ma lei è amico di Oliviero, perché non viene a farci un libro Oliviero con la chiesa? Io andai giù a poter fare la chiesa. Sì. Poi ritornai con questa richiesta. Mi dettero una cella lì dei cappuccini e sono stato lì 3 giorni. Giuro, non ho mai, sono mai stato disgustato così in vita mia. Perché? Tu sai che lì arrivano tutti i malati terminali, sì. Vabbè, ma e li fanno inginocchiare. Hanno fede, ogni inginocchiata sono 3 euro e poi la scalinata della roba sono 10 euro. e poi l'acqua santa sono 2,50 euro. È tutto un Luna Park, è una roba tremenda. Ma no, ma hanno fede, scusa. No, non ti dico, è così. È una roba per fare i soldi, è una roba per fare i soldi. Roba è un Luna Park, è ridicolo. E poi ci sono le stigmate col sangue, le crostine dei suoi fazzoletti. Ma è una roba oscena, è una roba oscena, da sadomaso. Allora, dopo tre giorni di aver visto queste robe qua, vado dal padre Cappuccino e dico: guardi, io glielo faccio anche gratis, sì, ma non sarà sicuramente di promozione di questo posto. Dopo che hanno visto questo libro, nessuno verrà più qui da voi. Cazzo, mi ha tolto la benedizione. Addirittura? No, quasi, ma no, ma Toscane no, allora forse è meglio che lei non venga a fotografare qua. Una roba incredibile, dai. Così, cioè, così. Hanno trasformato questa roba qui in una macchina da soldi. Per chi ha fede va benissimo, dov'è il problema? Vabbè, ma come che c'è? Per chi ha fede, gli rubi i soldi, che non ha fede. I malati terminali, sono malati, dai. Terminali, sono, arrivano lì nella disperazione. Beh, però li potresti a chi far crede pagare qualsiasi cosa. Sperano nel miracolo del santo e cacciano fuori. Ma questo trasporto della salma, come lo vedi? Il trasporto della mummia? È una cosa ridicola. È una cosa ridicola. Beh, però non si possono ridere milioni di fedeli. No, ma cosa ci faccia? Mi fanno ridere. Sono loro che fanno queste cagate qua, mica io. Ecco, ma non ho capito, ma quelli che vanno lì occupano la strada, addirittura ho sentito... Sono dei poveretti, dei fanati, cioè, finché, ragazzi, finché ci sono le religioni, ci sono le tragedie umane, va bene? Ma questi beh, guarda, io non ho mai visto nessuno uccidere in nome di Padre Pio, stavolta, anzi, stavolta sono d'accordo. Il nome di chi? Di Padre Pio, lui dice. Il nome di Padre Pio, no, il nome di Dio. Ma il nome che di c'entra? Dio. Cioè, non tu dici questi uccidere che, in nome questi di Padre Pio, anzi, che sono in fila. Allah, in nome di Allah, ma la stessa roba. Padre Pio è un rappresentante, è un uomo marketing della religione, dai. Comunque, ragazzi, ma non si può stare in fila per vedere la mummia. Dai, ma che fastidio vi dà? Ma è una roba medievale, dai. Non ma mi dà esteticamente fastidio. Cioè, tu dici fa schifo proprio la mummia di Padre Pio. Fa schifo la mummia. Ma che ve ne frega voi? Io non ho mica capito. Ma c'entra il corpo? Cosa me ne frega a noi? Telegiornale, i giornali. A Zanzara, persino voi ne parlate. Ma perché c'è gente che ci crede, capito? C'è gente che ci crede. Io pure penso. Credono anche quelli che anche quelli dell'ISIS ci credono, no? Gli dai ragione. Cioè, questi qua ti dici, questi che vanno là, Padre Pio, sono come quelli fanatici del. Dei fanatici uguali. I fanatici del. Se ma come? Ma chi c'entra l'ISIS con questi qua? Se tu non credi in questa religione, ti viene da ridere, come siamo a me viene da ridere per i musulmani. Siamo alla follia. Dai, viene da ridere, Parenzo, viene da ridere. Ma dai, non viene da ridere, ma potete sorridere voi. No. Io non ci credo perché ho un altro partito. Ma scusa, ma secondo diciamo, te il Vaticano perché l'ha portato? Tu perché senti, caro Parenzo, tu dimmi. Sei un po' sionista, quindi credi lì. Purtroppo è così. Ma no, ma io ho un'altra credenza. Oliviero dice nella che mia religione non c'è il trasporto di questi sono santi, laico. Di queste cose, non c'è niente di tutto questo. Ateo. Ateo anche. Vabbè. Hai capito, sono laico. Qualsiasi religione è come una scoreggia, cazzo. Capisci? Perché si parla, si dice, si fa il Padre Pio. Non voglio sentire io. Scusa, ma un attimo. Non vuoi sentire, ma allora sei intollerante, scusa. Che fastidio no, ti danno. Intollerante. Ma sì, ma che fastidio ti danno quei scusa, fedeli. Scusa, ma tu non ci credi che fa del bene Padre Pio? Che ha fatto del bene, diciamo. A chi? E che ne so, qualcuno ci crederà. Ai malati. Era un isterico. No, c'è un cardinale che ripudiava tutto della santità di Padre Pio. Ma ci sono milioni di persone che ci credono, scusa, ma è terribile, è offensivo. Parenzo, milioni di persone credevano nel nazismo, va bene? Ma che c'entra Padre Pio col nazismo? Uguale, preciso identico. Ma cosa uguale? Ma non è possibile. Ma non puoi dire una roba così. Ma quella è una religione di pace. Ma Padre Pio è un uomo di pace. Ma a me poi, figurati, non è che io ho interesse a difendere Padre Pio. Non esiste religione di pace, Parenzo. Non esiste. Mamma mia, ragazzi. Non esiste religione di pace. Siamo ormai veramente Oliviero, oltre. Ciao, oltre. Ciao, caro. Ragazzi, comunque c'ha ragione lui, Parenzo, tu stavolta ma sei... Ma che ragione? Vabbè, ecco, ma tu sei d'accordo quando parla della Lega, io sono d'accordo quando parla di religione, ha ragione lui, dai, su. Ma no, in generale uno può parlare non se ne può religione, più, ancora con i corpi, siete veramente ancora nel 2016 con i corpi trasportati, ma non dai, se ne può più con perché? Le salme ma trasportate a Roma, dai. Posso capire, ma che danno fa? se uno crede e ha questa gioia della fede, questo, ma che danno fa? Fanno male a qualcuno? No, anzi. Dai, su. Ti vorrei proporre, però, ti vorrei proporre il, come dire, il moderato parere del marchese Fulvio Abate su Padre Pio, giusto per completare l'opera, giusto per ringraziarci ancora una volta le, come dire, le gerarchie vaticane. No, ma guarda che il Vaticano e i credenti tutti ha ostacolato molto Padre Pio in una fase. Il Vaticano non era molto Abate. Senti, che cos'è nell'immaginario profondo di questo paese Padre Pio, se non l'orco buono di Dio, l'orco meridionale saio che racchiude un arcaico tanfo di scoregge e di noci. Ho capito questa cosa. Ma è pazzo. Cosa vuol dire? Non lo so. Quest'altro frate che dice: sono commosso dai fedeli che hanno invaso il casello dell'autostrada. È normale invadere il casello dell'autostrada, fermare l'autostrada per Padre Pio, per la salma di Padre Pio nel 2016. Ma tu non dici mai questo. Quando ci sono quelle partite di calcio con quei derby pericolosissimi, non dici la stessa cosa. No, quando orde di fanatici ultras, ragazzi, violenti chiudere, dai, piombano sulla città mettendo a ferro e fuoco tutto. Ci sentiamo dopo. Parenzo e Cruciani, ho associato la vostra faccia alla voce. Non l'avessi mai fatto. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La Zanzara. Io lavoro a Londra, alla BBC, e sono un drogato di Zanzara da sempre. Allora, sappiate che anche la BBC nel tempio del giornalismo risuonano Donato da Varese, Mauro da Mantova, Valentina Nappi, Taormina, sappiatelo. Hai capito, David? Anche alla BBC, anche dentro il tempio della BBC, poi tempio, poi non esageriamo, tempio, comunque, abbiamo tutti in mente questa roba qui. Poi sai le magagne che fa la BBC, sai le porcherie e ogni tanto e le cazzate che fanno pure la BBC, anche loro, ma lasciamo perdere, dai. Comunque, dentro la BBC, nel tempio della BBC, come ci racconta questo affezionato ascoltatore, risuonano le voci del professor Taormina, di Donato da Varese, di Mauro da Mantova, di Valentina Nappi. E io inviterei chissà se c'è un Mauro da Mantova in Inghilterra, no? Beh, ci sarà. And so what? Do you know who is Soros? De Benedetti? Do you know? Io lo immagino in inglese così. Lo immagino. Do you know? Comunque, invito l'ascoltatore della BBC a rifarsi video. No, ma tra uno che lavora alla BBC. Certo, invito l'ascoltatore che lavora alla BBC di farsi di nuovo vivo, perché magari gli possiamo fare un regalo, portare qualcuno dei nostri personaggi, dei nostri ospiti, dei nostri guest nel Sancta Sanctorum alla BBC. Si rifaccia vivo, si rifaccia vivo. Senti, io ho sentito tutto nella vita, no? Ne ho sentite di tutti i colori, soprattutto da parte degli animalisti, no? Ne ho sentite veramente tante, ma tante. Questa, francamente, non l'avevo. Non è che non l'avevo mai sentita, proprio non pensavo fosse possibile questa cosa qui. Allora, tu lo sai, c'è una trasmissione qui che si occupa di animali, no? Sì, molto bella. Condotta certo. Anche da, tra gli altri, dalla signora Celentano. Molto dalla bella, bella trasmissione, lodevole. Sì, lodevole adesso, una trasmissione. Lodevole. Una trasmissione, va bene, ci sta, non lodevole, mi interessa. Lodevole. Perché vuol dire lodevole? Che vuol dire lodevole? Andiamo avanti. Cosa lodevole, ma che cazzo di parola è lodevole? Lodevole. Cioè. Lodevole. Ma è così una cosa formale. Lodevole l'iniziativa. Lodevole l'iniziativa. Di parlare di animali sulla radio della Confindustria. Andiamo avanti. Comunque, la signora Celentano. Celentano, ecco, sì. Dice, sostiene in una di queste puntate che fa della trasmissione, in una delle emissioni, come diresti tu, no? sostiene, non riesco nemmeno a dirlo, capito? Di volersi talmente adattare alla vita del suo animale, che credo che sia un cane, di provare delle cose a quattro zampe. Credo che si tratti semplicemente di imitazione, non di riferimenti sessuali. Cioè, lei si mette a quattro zampe per provare a vedere cosa si prova, per immedesimarsi nell'animale. Nella dimensione del cane. La Celentano a quattro zampe. E noi sempre dalla prospettiva del cane che vi raccontiamo, perché io oramai vivo dalla prospettiva, secondo la prospettiva dei miei cani. Cammino a casa a quattro zampe, se devo scoprire... No, non ti ricordi quando dovevo scoprire dove mi aveva marcato il chihuahua il territorio, dove aveva sporcato anche nei minimi angolini? Sì, mi sono messa proprio nei suoi panni. Sì, mi sono messa nei suoi panni, mi sono messa a quattro zampe e mi immaginavo di camminare proprio a quell'altezza. Fantastico. E sei riuscita nel tuo intento? Sono riuscita a fare tutto. No, adesso io non voglio dire nulla, non voglio dire niente, Parenzo, però a questo punto vorrei suggerire alla professoressa Celentano una cosa. Perché non mangi pure così? Cioè, metti una ciotolina con l'acqua e cominci a leccare la ciotolina, oppure mangiare del cibo dentro la ciotola, cioè mettersi in basso, camminare a quattro zampe, vivere a quattro zampe. Direttamente. Beh, vivere, però magari no, ma vivere a quattro zampe per qualche ora. No, ma qualche ora? Perché qualche ora? Se uno si vuole immedesimare totalmente. Totalmente nei propri cari, no, nei propri simili, perché lei pensa di essere uguale al suo cane. Lei si mette a quattro zampe tutto il giorno. Viva a quattro zampe! Sarebbe straordinario. Un anno a quattro zampe, leccando per terra, mangiando dalla ciotola. Non è che il cane lecca. E come non lecca per terra? Certo, lecca anche per terra. In continuazione. Mica come noi il cane, non è che ragiona, sta lì, non lecca, lecca anche per terra. Ma no, è una bestia, lecca per terra. Cioè, sono bestie, capito? Cioè, non è che. Beh, sì, questo sicuro. Sì, ma sono bestie. Cioè, mangio. Tu lo dici con disprezzo, beh. No, non lo dico con disprezzo, però voglio marcare una differenza. Non è che io non marco il territorio, marco una differenza. Se uno si vuole in medicina, ma è legittimo, perché non fa male a nessuno. Viva un anno a quattro zampe, meraviglioso! Un anno intero a quattro zampe per terra. Non so come se ne possa uscire da questa esperienza dopo un anno a quattro zampe, anche dal punto di vista, come dire, no, della dell'ortopedia, ecco, no? Dell'ortopedia, insomma, delle giunture. No, giunture è un termine troppo animale, diciamo, delle articolazioni, delle, no, le ginocchia, eccetera, eccetera. Ah, ragazzi, non ne posso più, non ne posso più. C'ho un rimbombo qui nella cuffia, mi togliete questo cazzo di rimbombo che c'ho nella cuffia. Giuseppe da Roma, vai. Ciao, buonasera. Dimmi, dimmi. Ciao, niente, volevo ritornare sul discorso di Don Livio. Sì, la cosa, Don Livio. La cosa straordinaria, secondo sì. me, non è tanto quello che ha detto, ma è come l'ha detto. Cioè? Non so se avete notato, sembra un pizzino. È un pizzino. Ma sì, cioè, ma sono tutti messaggi. Un pizzino, lui dice un pizzino mafioso, una minaccia, quasi una minaccia. Sì, tanto devi morire. Sì. Esatto, ma non è tanto il contenuto. Vabbè, adesso non esageriamo, un pizzino, non è che... Cioè, io penso davvero che siccome lui... Se uno vede... Scusami, Parenzo, però questo adesso uno... non è che voglio esagerare. Se uno vede questa battaglia per i gay o anche altre cose, no? Come una battaglia tra il bene e il male, tra Satana, tra Satana e il... No? E il bene, Dio dall'altra parte, no? Beh, è chiaro che tu pensi... Ti auguri la morte di Satana. Cioè, se tu pensi che la Cina sia sono Satana... Sono immagini bibliche, dai, su, ma no, sono immagini ho capito, bibliche, ma se tu la dici, se tu continuamente parli di Satana, cioè Satana va ucciso, cioè va soppresso Satana, no? Cioè, sei felice della morte di Satana. Cioè, se pensi che a prevalere possa essere Satana, beh, la conseguenza naturale... Ricordati che Satana non muore mai, perché Satana, c'è la guerra tra il bene e il male, ci sarà sempre, capito? Quindi non è che muore dai, Satana. Su, comunque, su. Che vuoi dire, Giuseppe? Non ho capito. Semplicemente che il contenuto è quello che vuole lui, però il modo era assolutamente assurdo. Poi hai sentito l'intervista che avete fatto qualche minuto dopo al giudice, invece com'era così contenuto, così attento a non dire una virgola. Vabbè, ragazzi, non aveva grande voglia di parlare, aveva parlato tutto il giorno. Che vuoi fare? Assolutamente, però a me è sembrato assurdo questo, insomma, questa differenza così. Vabbè, ciao. Allora, ragazzi, la giustizia italiana, qualche volta uno poi dice parla male pure della giustizia italiana. Caro Parenzo, come si fa a non pensare che ci sia una follia in quello che succede in provincia di Bergamo? In provincia di Bergamo succede che un signore che si chiama Stefano Rò, ha 43 anni, è un insegnante precario, ma non è importante che sia precario o no. Padre di tre figli, no, padre di tre figli. 11 anni fa questo signore, insieme ad un suo amico, alle 2 di notte, in un borgo di poche anime, sempre in provincia di di Bergamo, credo, aveva fatto pipì in un cespuglio, cioè aveva pisciato piena, nel cespuglio. Insomma, eh. Ma sì, ma anche a te sarà successo, no? Immagino che anche a te sarà accaduto di pisciare ogni tanto nel cespuglio. A me succede. Beh, il cespuglio, per la strada, in mezzo alla strada, di notte, in mezzo, no, non di giorno, in mezzo alla strada. No, guarda, mi è capitato, se vuoi saperlo, di recente. Cioè, sul io penso che tutti voi che siete all'ascolto dell'autostrada, dico, mi è capitato una volta. A me, recentemente, quest'estate, non mi ricordo, stavo andando a prendere la macchina, ero a San Benedetto del Tronto. Stavo andando a riprendere una macchina, non è 3 di notte, mi scappava e ho pisciato per strada. Era completamente così, buio. Dicendo, guardate, su, addosso a un muretto. No, io sono Cruciani, me no, ne frego, no. Traffico! No, ma che cazzo urlando c'entra? Con sta cosa, con sto istintore. Ma me ne frego di tutti! Ma perché? Io piscio dove mi pare! Ma no! Traffico, ma... cretino! Ma che cazzo dici? T'hanno fermato. Ma non mi ha fermato nessuno. Se uno si mette lì con sto coso in mezzo alla strada, ma no, io me ne frego! Ecco, allora, la chiesa mi vuole arrestare, hai detto. Ma non arrestare, ma scusami, non è vero, non è così. Scusi, se però lei non urla, si mette di nascosto, no, me ne frego. Vabbè, allora io è andata così è andata non è stata così, assolutamente no. La scena sicura. No, Val Brembana, Ferragosto 2005, notte, un paesello che si chiama Averara, un pugno di case. Questo signore qui si è messo a pisciare, dopodiché è stato denunciato, fermato, visto da qualcuno. La roba è andata avanti per qualche anno, lui si era anche dimenticato. Questi due, tra cui questo insegnante, si sono trovati imputati perché in un piazzale illuminato adiacente alla pubblica via compivano atti contrari alla pubblica decenza orinando nei pressi di un cespuglio. Capito? A un certo punto la procedura è andata avanti e questo qua si è trovato condannato, non so per quale reato, e alla fine è stato praticamente cancellato per questa roba qui dalle liste dei precari, eccetera eccetera. Dai su, ragazzi. Cioè, con tutti i corrotti che non fanno un giorno di galera, con gli evasori fiscali. Cioè, adesso non può più insegnare perché l'hanno tolto dalle liste. Per il momento, per il momento. Comunque ci chiami, sto Stefano Ro, se ha voglia. Maria Rosa La Spezia, vai. Sì. Buonasera, ciao a tutti, ragazzi. Scusate, sono anzianotta, se non sono solerte e svelta come voi. Vai, Maria Rosa, rapida però. Guarda, io sono rimasta, a parte che se ne sentono di tutti i colori come dite voi eccetera, però dico, ma questi benedetti giudici che io ho sempre stimato che permettono a un avvocato, cioè dicono sì, di far denunciare dal ladro il padrone che il quale cane l'ha morsicato. Ho capito, ma è la follia della giustizia italiana, amica mia. No, ma voglio dire, ma non è il giudice che accetta. Io, per però. L'amor di Dio, sono l'ultima ruota del carro, però io sono un'ex infermiera professionale e il senso della rispetto dell'altro, delle cose logiche eccetera, vabbè che sono a un'età e sono rimasta indietro, ma invece di andare avanti questi giudici cosa fanno? Ma non c'entrano i giudici qui, però scusi, ma sì, chi c'entra? Una persona che si sente, come dire, parte offesa decide di andare in processo, cioè chiunque può chiedere un giudizio. Ma voglio dire, ma quando uno dice una cavolata, scusate il termine, che sono una persona anziana, verrà archiviato tutto, no? Dai, su, verrà archiviato. Riccardo da Pescara, ciao Riccardo Pescara. Ciao Parenzo, ciao Cruciani. Dimmi. Dico velocemente che nella maggior parte delle volte sono d'accordo con te e non in disaccordo con Cruciani, Parenzo. Però Parenzo, rispetto a te una cosa di buono, ha il rispetto per le persone e per le religioni. Quello che ho sentito stasera del vostro amico Toscani è veramente vergognoso, e la cosa più vergognosa era vedere te, perché io ti guardo comunque al computer, sono ufficio, e vedere te che te la ridevi e lui sparava queste cazzate assurde, il cattolicesimo è come il nazismo, cioè, ma non si possono, no, non si non possono non dire ha detto, queste cose, non si ha può detto dire questo. Tutto ma insomma a tutto c'è, non a ha tutto detto c'è questo guarda c'è anche in sovraimpressione sulla schermata i messaggi Toscani dice che Padre Pio è un isterico e il cattolicesimo è come il nazismo, non esistono regioni di pace. Non ha detto è come il nazismo, cioè sì, credere va bene, ma non si può sentire insomma una cosa del genere, veramente se lui pensa che portare la salma di Padre Pio sia una roba medievale, cioè, per me ha perfettamente ragione. Potrebbe anche aver ragione, io non sono religioso e anche a me sembra un po' medievale, però è offensivo rispetto ai fedeli che non fanno niente. niente, però che sono persone che credono. Rispetto ai fedeli, ecco, tutto qua. Ma l'ha detto Toscani, poi mica l'ho detto io, cioè la cosa del nazismo, il paragone l'ha fatto Toscani. Io me la ridevo, sì, ridevo, sì, è vero, ridevo. Tu te la ridevi? Ridevo, sì, ridevo. Eri d'accordo, dai. Ma sul nazismo no, sul nazismo no, non c'entra niente, il nazismo sono due cose diverse. Mi sembrava, nazismo mi sembra una cazzata. Credo che sia una roba medievale, assolutamente medievale, questo il fatto che migliaia di persone sono lì a toccare una salma, mi sembra una cosa veramente fuori dal mondo. Fermi tutti. Zanzara addicted. La zanzara. Oh Cruciani, e tu chiami la tizia e si incazza Napoletani, tu dici di prete e si incazza Cristiani, sei ai top, rompi i coglioni, professionista. Allora ragazzi, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci, il numero invece per i vostri WhatsApp 393 71 71 701. Parenzo, che stai facendo? Niente, stavo compulsando le ultime Stavi notizie. Compulsando le ultime notizie. Le ultime notizie, e ho visto questa notizia che interesserà, che stavo proprio guardando, sì, dimmi, e commentando dentro di me. Sì, dentro che di praticamente te. Questo interesserà milioni di ascoltatori. Sì, dimmi, cioè, dimmi. A Napoli, sì, i renziani hanno siglato un patto con i giovani turchi. Ma chi se ne frega? In chiave anti-Bassolino. Ma basta con queste cose, ma chi se ne frega di queste robe? Ma chi qua se ne frega? Solo a te interessano queste cose. Incassati i candidati a Roma, ma e Milano, non, ma non ce ne Roma, frega niente. Milano c'ho le primarie questa domenica. Non ce ne frega nulla. In cui si sfidano i quattro candidati. Non sapremo ce ne frega chi sarà niente. Il candidato sindaco a Milano. Bene, su Napoli la partita è aperta. Per cui i renziani con i giovani turchi, sì, siglano un patto contro Bassolino. Benissimo. Mamma mia, di grande interesse questa cosa qua. Solo a te interessa questa roba qua. No, e forse alla tua famiglia. Per vari motivi che una volta spiegheremo. Ma c'è un punto. Molti tifosi del Napoli mi rimproverano, sì, di vedi non che dire nulla. Ti ho riportato a Napoli. Sì. Vedi che però grazie a questo mi hai fatto ricordare una cosa. Mi rimproverano di non dire nulla sulla sanzione della chiusura per due giornate della curva della Lazio per alcuni cori razzisti nei confronti di un giocatore del Napoli che si chiama Koulibaly. Koulibaly, sì, Koulibaly. Allora, cari ragazzi, che cosa volete che vi dica? Io chiuderei le curve a prescindere, per cui non è quello il punto. Figuriamoci se... Diciamo che la questione della chiusura delle curve la trovo anche ridicola, perché serve semplicemente a dare risalto a queste cose qui, non danneggia nessuno. Beh, come no? Ma sì, ma questi danneggia se ne possono. Società? Questi, danneggia le questi... società? Danneggia i tifosi, sì, stessi, ma non serve che anziché andare a rompere, capito, i coglioni nelle lo curve. Direi anche, lo direi anche per la curva del Napoli. Sono provvedimenti tampone che non servono assolutamente a nulla. Per me vedere. Bisogna applicare. Quando cominciano a giocare per una serie di domeniche le partite con lo stadio vuoto, bisogna, voglio vederti. No, parte non è lo stadio vuoto, ma è solo la senza curva. Senza le curve, voglio vedere. Sì, ma bisognerebbe applicare in alcuni casi ai tifosi della curva una cosa che è simile all'associazione a delinquere, secondo me. Spesso i gruppi organizzati sono assimili. No, ma quella è un'altra cosa. Sono assimilabili all'associazione a delinquere, che non capisco perché non venga utilizzata. Per cui figuriamoci se non sono favorevole. Trovo che questi provvedimenti, come dire, che vengono fatti sulla base di cori sentiti, no? Perché poi se i cori si sentono bene, se non si sentono, beh, non va bene. Se uno dice una cosa, no, dai, questo è veramente, ci vuole, capito, l'audio più alto a 10, allora vengono condannate le curve. Se invece lo dici un po' più piano, oppure se lo dici in maniera diversa, l'insulto, cioè l'interpretazione dell'audio dell'insulto è una cosa veramente ridicola, diciamo la verità, ridicola. Comunque, cosa volete che vi dica? Nulla, non posso dirvi nulla. Io chiuderei direttamente tutte le curve per 10 anni, figuriamoci. Allora ragazzi, dove andiamo? Andrea da Trento, vai Andrea. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Sì, comunque gli insulti li fanno tutti, eh? Cioè, nelle curve si insulta, punto e basta. Non è quello, il problema non sono gli insulti che vengono fatti, sono altre cose che avvengono, non gli insulti. Che la pure... violenza e il razzismo. Ma sì, direi. Ma d'accordo, ma non è quello il punto. Bisogna chiuderle allora, direttamente, applicare l'associazione a delinquere spesso, in alcuni casi. Cioè, che cosa servono questi provvedimenti? Una, due giornate, tre giornate? A niente. Non lo so, sentiamo Auriemma. Andrea da Trento. Dai. Telefoniamo a Auriemma. Andrea sentiamo da il suo... Trento, dai, non lo pigliare per il culo. No, Andrea da sentiamo il suo parere. Parere di Auriemma. Andrea da Trento, ti sei fissato su sto Auriemma? Ma guarda che mi ricapita di vederlo Auriemma. Dai, dai, dai. Chi c'è? Volevo Gustavo, dai, forza, Gustavo. Attenzione. No, sono Andrea da Trento. Andrea, sì, dimmi. Volevo riportare la vostra attenzione su cose molto più importanti. Il commento della Celentano. Sì. Sì, però parla, amico mio, e soprattutto parla bene a voce alta, perché altrimenti non sentiamo. Se sei con l'auricolare, se sei a viva voce, eccetera, eccetera. Devi parlare a voce alta, sono chiaro, e andare. E appunto, togli questo cazzo di viva voce, altrimenti mi arrabbio, Forza. Devo parlare col viva voce perché sono in macchina. Vabbè, ho capito, fermati un attimo, altrimenti non sentiamo. La prima cosa che viene detta è niente viva voce, niente tu viva voce. È una cosa gravissima questa cosa, gravissima. Puoi accostarti per cortesia. Adesso ho tolto, adesso mi sono accostato. Sì. Fai un incidente. No, poveretto, perché? Dimmi. Mi sono accostato. Allora, una stai cosa, tornando prima a casa una dalla moglie? Alla vostra radio, perché ogni trasmissione della vostra radio insegna qualcosa. Dare in mano delle persone che di animali non se ne intendono una trasmissione che parla di un fenomeno sociale che riguarda una famiglia sociale. Vabbè, senti, adesso non se ne intendono, adesso decidi tu, decidi tu chi se ne intende e chi non se ne intende. Il punto non è quello, dai, poi noi abbiamo sempre un pochettino sì. Noi vabbè, in d'accordo, adesso te ne intendi tu invece. Ha un cane. Sì. Io me ne intendo. Te certo, te ne intendi, è il mio lavoro. Va bene, d'accordo. Che lavoro fai? Secondo. Faccio anche l'addestratore di cani. Fai anche l'addestratore di cani. Bene. Vabbè. Faccio anche l'addestratore di cani da 30 anni. Va bene. Ascolto la signora Celentano, che evidentemente è ascoltata probabilmente per il suo nome, non tanto per va bene, dai, però adesso non me ne frega. Ma non me ne frega niente adesso di stare a fare la critica alla trasmissione della Celentano. Dai, su, non me ne può fregare di meno, dai. Quello che voglio dire è che non ti devi stupire più di tanto, perché c'è un altro onorevole che si sta battendo con tutte le sue forze per avere nei supermercati il carrello che porta i cani. Sì, sì, lo so. Ma vabbè. Ha una gravità maggiore di chi vuole per qualche giorno magari camminare a quattro zampe. Ho visto delle foto con i carrelli, con dentro i cani. Scandalosa, se mi scandalosa, è ridicolo più che altro, perché poi no, i cani... Lei dice che è una forma di maltrattamento? No, lui dice che possono portare delle malattie. Per i cani, ed è una forma di tortura per tutte le persone in Italia che non vogliono avere il cagnetto che gli piscia sul tonno piuttosto che sull'olio d'oliva. Ma certo, ha ragione lui, assolutamente. Io la vedo così. Ha ragione Andrea, che pure è un addestratore di cani. Vado a fare la spesa, mi compro il pane, vorrei evitare che il pane sia stato prima oggetto della zampa alzata del cagnetto, perché assolutamente lo dice la bambilla. Ha ragione Andrea, che è un addestratore di cani e dunque presumo ama gli animali, no? Io adoro gli animali, però c'è un limite a tutto. No, c'è una differenza. I cani non ha senso. No, ma c'è una differenza fondamentale. Quelli sono cani. Cioè, sono cani. Cioè, sono... Oh. Amico, sono cani, punto. Uno non può fare finta che siano esseri umani. Sono cani, punto e basta. Punto. Dunque, nei supermercati non possono andare insieme a noi come se fossero i bambini. Perché ti magari... dico solo una cosa e poi ti saluto. Sai cosa volevo fare io? Che cosa volevi fare? Con una settantina di miei allievi del campo d'addestramento volevo andare in un supermercato la domenica mattina e dire: siccome mi è permesso entrare con i cagnetti, bene, adesso vi beccate questa orda di 80 cagnetti. Beh, stupendo, che girano fra gli scaffali. Sarebbe meraviglioso, devo dire la verità, sarebbe meraviglioso. Ciao caro, grazie, ciao, signori. ciao. Allora, andiamo a Novara, Francesco. Novara, vai. Buonasera. Sì. Vorrei parlare per l'intervento del signor Toscani. Il signor sì. Lo metto per educazione. Sì, sei in viva voce? Sei in viva voce? Sei in viva voce? Sì? No, non sono in viva voce. Vai, dimmi. No, l'unica cosa mi dispiace di essere d'accordo con il signor Parenzo, però il signor Oliviero Toscani, che ha usato un gergo veramente triviale, scurrile, non offendendo solo i santi, cioè, ma offendendo milioni di persone che credono. Milioni. Def- definire la religione, la scorreggia, eccetera. Guarda, io ho conosciuto degli atei con una nobiltà e un rispetto anche per i credenti e per i simboli dei credenti, che è meraviglioso. Ma lui cosa pensa di poi? Lui cosa ha fatto nella vita? Guarda, io lo chiamerei il signor Toscano, perché mentre Padre Pio lo veneranno per secoli, Toscano durerà la vita di quanto dura un toscano, ma nemmeno di quelli corti. Vabbè, Francesco, ma lui pensa che tutte le religioni siano nocive, siano un pericolo. Sì, e dunque... ma io questo la posso capire, ma c'è modo, non si dice la religione è una scorreggia, ma cosa pensa di fare? Vuol fare spettacolo? Beh, un po' di spettacolo fa. Posso capire che voi usiate un linguaggio perché voi fate spettacolo, io lo so, fate il buono e il cattivo, ma questo ci sta. E noi vi seguiamo per questo. Ma gli interventi del Toscani, il Toscani che fa quelle foto del cavolo, ma beh, cosa questo, crede di no, questo fare? Non ma c'entra. Ma no, ma il suo lavoro nessuno lo mette in discussione, il lavoro di lui, Toscani. A lui da fastidio. In discussione a me non piace. Vabbè, d'accordo, a lui, ma esempio, adesso, questo, io dico una cosa, a lui esteticamente dà fastidio la presenza della salma, lui ha chiamato la mummia di Padre Pio. Cioè, Cruciale, dico una cosa, mia madre è morta a 94 anni, baciava la Madonna, l'ha sognata, è morta serena, non me ne frega niente. Guardi che Gesù dice che la verità è dei semplici, non dei dotti come il signor Toscani. Il signor Toscani deve avere rispetto, guardi, atei, lei senta addirittura Montanelli, altre persone non credenti, ma avendo un rispetto, la religione è una scorreggia, ma se vanno lì la scorreggia è lui, scusi. Ciao Francesco. Anche con quel modo saccente, sa tutto lui, a me mi sta sulle palle, glielo dico proprio terra a terra. No, ma... sono un volgare. Poi non vi rubo più tempo. L'unica cosa, io capisco che voi dobbiate dare voce a tutti quanti, capisco rispetto l'opinione degli altri, ma c'è un modo per esprimersi, c'è una signorilità, c'è un lessico, e lui veramente fa schifo. Va bene, scusatemi. Ciao Francesco. Prego. Ciao. Ma dai, basta Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese. La Zanzara. Già sono ferma in coda e sono incazzata nera. Più con le vostre voci di merda non sono incazzata, di più. Comunque ragazzi, Toscani non è che ha detto, ha paragonato i fedeli di Padre Pio ai nazisti o la Chiesa Cattolica al nazismo o il cristianesimo al nazismo. Ha detto che non è che perché è un bene, necessariamente un bene, il fatto che ci siano milioni di persone che credono in Padre Pio. Ha detto che anche milioni di persone adoravano, erano, come dire, devote al nazismo. Cioè, sì, ha fatto diverso, questo paragone. Bene, sì, sarà diverso. Lui paradosso, ha detto. Ma la cosa terribile cos'è è la questa cosa vostra terribile? Mancanza di rispetto verso persone che hanno l'unico torto di essere dei fedeli, cioè di credere. Allora tu puoi credere nel laicismo, io anch'io sono laico, però voglio dire, non si può essere. Cioè, voi siete anche nichilisti, ma chi se ne frega, siete illuministi, non volete Dio, benissimo, ma fate è quello un che uomo volete libero, dai, non è un andate uomo in libero. Chiesa, nessuno vi obbliga, a te qualcuno ti obbliga ad andare a vedere Padre Pio, Cruciale, no. Ma uno può obbliga. Pensare che c'è lo Stato può pensare che queste cose qui siano delle cose un po' medievali, ha diritto di pensarlo o no? Sì. Ha diritto forse di pensarlo, allora? Però è una mancanza di rispetto verso quelli che non solo ci credono, ma che hanno ritrovato anche una ragione di vita. Vabbè, ho c'è capito, molti, grazie a Padre Pio e al culto in Padre Pio, ai miracoli, hanno trovato supposti, una ragione di vita. Vabbè. Beh, certo. Allora, abbiamo qui, caro Parenzo, un signore che si chiama Diego Raggi ed è fratello di David, o David, non so se si chiama come te. No, David sono io. Comunque. No, David sei tu. David, che quasi un anno fa ormai, questa è una storia drammatica, non ci possiamo mettere troppo a scherzare, è sì, stato no, ucciso, non so se ti ricordi, a Terni da un marocchino. Sì. Clandestino, adesso poi ci spiegherà bene il fratello in che condizione era. Vabbè, questa qua è una storia di un anno fa, uno dice è finita questa storia. Tra l'altro Diego che è con noi, buonasera, ciao Diego. Sì. Buonasera a voi. Allora, all'epoca, durante i funerali, disse delle cose che tu avevi condiviso, Parenzo, cioè, no, basta razzismo, non è questione di marocchino, no marocchino, eccetera, eccetera. Per cui da questo punto di vista è inattaccabile. Io me lo ricordo, all'epoca disse addirittura non un atto di umanità, ma l'assoluto buonsenso di una persona che ha subito un lutto tremendo come quello, quindi, che non ha voluto strumentalizzare in alcun modo, questo mi aveva colpito di questa storia. La cosa storia, tremenda fu anche il modo in cui fu ucciso David, cioè fu praticamente con una bottiglia, praticamente fu sgozzato. Era molto giovane. Quanti anni aveva tuo fratello Diego? 27 anni. Tu sei più piccolo o più grande? Più grande. più grandi, io ne ho 32. 32 anni. Fu praticamente sgozzato davanti a un bar. Sì. Dopo un anno, quasi un anno, avete deciso di fare tu e la tua famiglia causa. Così per una rissa, come accadde? Sì, era una rissa, ma adesso non è importante. Vabbè. Insomma, non c'era nessuna responsabilità da parte del fratello. No, ma ci mancherebbe altro. Non era quello che faceva. Nessuna rissa. Nessuna rissa. Davide, no, era questo che era ubriaco. Cos'era? Era fuori di testa. Sto sì, era fuori di testa. Era stato quasi preso dai poliziotti. E lui, in un raptus di follia di tutta la gente che era lì in mezzo, se l'è presa con mio fratello che stava scrivendo un messaggio al telefono. Quindi, proprio. Sì, si era parlato di uno sguardo praticamente, no? Cioè... Non è stato neanche uno sguardo, perché lui era girato e lui l'ha colpito al collo con questo schiaffo e aveva questo fondo di bicchiere. Che tanto è vero, mio fratello dice, gli ha detto anche: ma cosa fai? E invece non si era neanche accorto che aveva infilato il bicchiere nel collo. Cioè infilato un bicchiere, tra l'altro, un bicchiere sì, praticamente rotto. Il calice da vino, ha visto al gambo fino il calice da vino, era diventato come un punteruolo e purtroppo... Mamma mia. Sì. Anzi, il fatto che tu lo racconti a un anno di distanza in maniera quasi lucida significa già qualcosa, il dolore resta, però riesci a raccontarlo lucidamente. Avete fatto causa al governo adesso praticamente, a Renzi, ad Alfano, perché sostenete che quel signore lì non doveva essere a Terni, doveva essere espulso e forse anche in galera, giusto? Sì, no, lui doveva essere proprio in galera perché lui aveva una condanna di 6 anni e 8 mesi e era a piede libero perché andava in giro con un documento falso e secondo loro non sapevano chi fosse. Dunque, doveva essere in galera o espulso? Tutte e due forse? Tutte e due. In galera e espulso. Cioè, poteva stare in Italia ma doveva essere in galera perché aveva questa condanna di 6 anni e 8 mesi. Sì. Nonostante c'era anche un decreto di espulsione. Però lui aveva fatto ricorso. Ciò che vuole. Certo, lui aveva fatto ricorso però al decreto di espulsione. Sì, aveva fatto ricorso, ma non era inappellabile, cioè non poteva fare nulla. Quindi lui era a piede libero comunque, e è quella la cosa che a noi rammarica. E la causa allo Stato è arrivata adesso perché purtroppo lo Stato italiano, a causa del rito abbreviato, noi non potevamo intervenire subito, quindi è dovuta passare la prima sentenza e poi siamo potuti intervenire. Allora, al di là delle questioni legali, voi chiedete un risarcimento di quanti soldi allo Stato? No, quella la cifra era di 2 milioni di euro. Uno potrebbe dire: vi siete mossi dopo un anno per prendere i soldi. Cioè, questa lo faccio il cinico, io faccio un po' il bastian contrario. No, lei fa. Tanto fa siamo umbri, siamo umbri tutti e due. So che gli umbri sono gente tosta. Io sono di Orvieto, tu di Terni. Io dico: uno dice si muove dopo un anno perché adesso vogliono i soldi in qualche modo. È così o no? Sì, guardi, glielo spiego a parole povere. Lei ha perfettamente ragione, perché la mentalità che uno potrebbe usare sentendo questa cosa a primo acchito è proprio quello. Invece le posso garantire che l'unico modo per far andare avanti questa causa era chiedere un rimborso. Perché adesso sembra che senza soldi non si poteva andare avanti. Ma a noi, lo ripeto e lo ribadisco tutte le volte, dei soldi non interessa assolutamente nulla. A me interessa solo di riuscire a cambiare queste leggi in Italia, perché non si vive e più così. E che ci farete coi soldi poi? Se magari riuscirete a prendere questi soldi, che ci fate? Guardi, con questi soldi al 99%, come abbiamo sempre detto, andranno in beneficenza, oppure si sta lavorando per aprire una fondazione a nome di David, proprio per chi come me ha subito delle perdite, che purtroppo non ha magari i mezzi per potersi difendere o per affrontare certe cause. Cioè non è che vi rimettete solo in tasca questi soldi? No, guardi, glielo giuro, e poi metteremo tutto alla luce del sole come abbiamo fatto dal primo giorno. Allora, no, Parenzo, io ho paura però che questa causa qui sia un po' temeraria, no? Cioè, certo. È un po' complicata. Altro serve a far parlare di questo caso, serve a far parlare del io fatto Io non lo che... so, però certo, mettere, come dire, denunciare, no? Fare causa a Renzi in questo caso, al governo, adesso c'è Renzi, ma poteva essere qualcun altro. Perché dovevano cacciare quel clandestino? Sarebbe omissione dati d'ufficio. Un po' di emozione, sai quanto ci tengo a questa cosa dell'espulsione, Parenzo? Io trovo che il ricorso contro un decreto di espulsione sia una cosa assurda. Cioè, trovo che se uno viene espulso, cioè non ha diritto a essere ospitato qui e tu puoi fare ricorso, la trovo un'assurdità. E dunque, questo ragazzo qui è stato ammazzato a causa delle nostre leggi. Adesso ci ho quasi ripensato su questa cosa qua. Cioè, queste leggi hanno consentito a questa persona di rimanere in Italia e di non essere in galera. E dunque, siccome era libero... Leggi, scusa. Le leggi italiane. No, un momento, però il signor Diego Raggi ti ha appena raccontato un'altra cosa. Cioè, questo assassino di Terni In realtà non solo sarebbe dovuto rimanere in galera perché condannato a 8 anni. Però formalmente le leggi gli hanno consentito di stare fuori, giusto Diego? No, non mi pare che sia questo. No, perché proprio lui non, sì, fondamentalmente aveva un documento falso. Si tratta di un buco nero. Esatto. Si tratta di un buco nero che c'è stato nella formalità, perché se lui fosse stato rintracciato dall'inizio, quando è tornato in Italia, tutto ciò non sarebbe successo. Però parliamo di una persona condannata in un altro modo, ma sì, una persona condannata. Condannata che invece di stare in galera stava fuori e in più aveva dei documenti falsi. Quindi sì, diciamo questo si parlava. Questa è gli elementi della storia, no? Quindi persona condannata che doveva stare in galera. Ma perché ci avete messo un anno per decidere di fare causa a Renzi? Perché, ripeto, perché per colpa del rito abbreviato non siamo potuti intervenire subito, perché prima si fa una cosa e poi l'altra. Qui leggo che il rito abbreviato per la condanna. Qui leggo che volete chiedere 2 milioni, giusto? Sì, questa è una cosa forfettaria. Lei si sta basando troppo sulla cifra. Io gli posso garantire che la cifra a noi non interessa. Perché se io dovessi godermi solo. No, se io mi dovessi godere solo un euro di soldi di mio fratello, mi farei schifo da solo dall'inizio. Cioè, se tu è chiaro che per lui ha un valore. Se dovessi spendere solo un euro per te stesso, per comprarti un vestito, un qualcosa, dei soldi che ti vengono dati, ti faresti schifo da solo. Questo è il punto. Sì, mi farei schifo da solo. Non c'è prezzo alla vita del fratello, dai, ma no, è ovvio. No. Ma figurati. Cioè. Guarda, a me è nato un figlio che sono 10 giorni. E se io sto facendo questa battaglia è perché spero che un giorno possa essere libero di circolare per la città, che questa gente non ci sia. Ma a questa gente mi riferisco irregolari. Tutto lì, perché io sto facendo tuttora la battaglia contro il razzismo, non ce l'ho con nessuno, perché se fosse stato ucciso da un ternano stesso io avrei portato avanti la stessa battaglia contro un ternano, quindi non sono mai stato il ternano. È difficile che il ternano fosse essere un irregolare. Certo, io mi riferivo alla mia battaglia personale contro, maggiormente noi ce l'abbiamo con questo rito abbreviato. Vabbè, ci sono delle famiglie, come sentiamo tutti i giorni, che purtroppo vedono gli assassini dei propri parenti, figli o fratelli, che girano liberi per la città. Su questo non c'è dubbio. Il rito abbreviato per gli assassini, il rito abbreviato è una cosa assurda, oggettivamente. No, per... è assurda. Solo perché tu dichiari di essere colpevole e fai risparmiare tempo, per me è una cosa assurda. Grazie Diego. A voi. Ciao. Ragazzi, tra poco torniamo a 800 24 00 24 con una grande sorpresa. Fra pochi minuti, grande sorpresa. Sono un programmatore e produco codice di qualità ascoltando La Zanzara. La Zanzara. Ragazzi, ma quel dente giallognolo di Cruciani, anzi come direbbe lui, il signor dente, ma quanto è bello. Lascialo così, non lo tocca, a noi ci piace così. Ti fa imperfettamente figo, Crucià. So che pagherò le conseguenze di questa cosa che sto per dire, perché il mio ragazzo ascolterà questo messaggio vocale, ma non riesco più a tenermelo dentro. Cruciani, mi ispiri sesso violento con quell'atteggiamento da stronzo. Diglielo a Cruciani, su. Pure io ascolto La Zanzara. È brava nonna, brava. Beh, questa è circonvenzione adesso, di anziani. Puoi dire, ma va denunziato questo qui. Usare la nonnina per. È un uso improprio della nonna. No, ma fatevi risentire questa della nonna, vi prego. Fatevi risentire questa della nonna. Ma secondo me non è vero, si è inventata una voce, dai. Diglielo a Cruciani, su. Pure io ascolto La Zanzara. È brava nonna, brava. La tortura. No, perché c'è la sovrapposizione. No, è la no nonna, sembra veramente originale, effettivamente. Sì. Sembra originale. La polizia. Ma scusa, quello prima non l'hai sentito? L'hai sentito, sì, il messaggio precedente? Sentito. Beh, amico. Ho riconosciuto anche la voce, tutto organizzato. No, ma chi è organizzato? Tutto organizzato. Ma quello organizzato? Ma quando mai? No. Quello del dente giallo anche forte. Cioè, la gente, io mi rendo sempre di più conto, partecipando ormai da anni a questa trasmissione, che la gente è matta. Cioè, questo è un paese irrimediabilmente irriformabile. Ma che c'entra, scusa? La il dente giallo può piacere, a me non piace più ormai. Matta. perché la piace ogni tanto la stortura, piace la diversità. No, cioè, piace, non piace la precisione. Piace. No, beh, no, anche sì, ogni sì, tanto, sì, sì, ogni tanto. Ma è un paese no, irriformabile proprio totalmente. Crociani, è il mio terzo giorno senza lavarmi. È bellissimo. Cioè, tu capisci, no? Tu capisci qual è la situazione. Allora, Olivio Fanzaga ha parlato, pare, con l'Huffington Post e ha spiegato: la senatrice Monica Cirinnà è cattolica e sa che cosa le volevo dire. Le ho ricordato il giudizio ultimo che riguarderà ogni uomo e donna. Poi, certo, uno dopo spiega come vuole, naturalmente, no? Questa cosa così. Il funerale non ha nulla a che fare con il giudizio ultimo che adesso invece ricorda in questa intervista. Quando lasceremo questo mondo dovremo rendere conto della nostra vita al creatore, il quale ci giudicherà con giustizia ma anche con misericordia. Specialmente di quest'ultima ne abbiamo bisogno tutti. Vabbè, d'accordo, questo secondo la tu, sua credenza. Luciani, a chi renderai conto? A nessuno, che cazzo me ne frega di quello che succede dopo. Non frega, nessuno, bene, nessuno sa quello che succederà dopo. Solo nel voi, dubbio. Solo voi potete pensare. Fossi in te nel dubbio comunque. Ma no, a ma due solo minuti dall'ultimo respiro. Che fossi cosa? In te. Dovrei fare un appello al creatore, addio a chi? Beh, anziché lanciare il traffico, a dire ascoltatori, ascoltatori, io fossi in te. Due minuti, meno due minuti alla morte. Comunque dice: mi sono mosso nell'ambito della libertà di espressione garantita dalla Costituzione. Ma quindi, vabbè, ma questo invoca la libertà di espressione, sì, garantita Don dalla Livio. Costituzione, tra l'altro. E lui pensa invece che ci sia la legge di Dio superiore alla Costituzione. Appunto. Dunque non può appellarsi sempre alla Costituzione, no? Tanto più che dice: è una legge che stravolge, la legge Cirinnà, l'ordine divino della creazione. E allora, scusa. Culminante nel rapporto di amore fra uomo e donna. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ma mi va anche bene, però non puoi invocare la Costituzione, però. Cioè, delle due l'una, o c'è la legge di Dio divina superiore alla Costituzione, e lui appunto crede che ci sia la legge divina, esatto, superiore alla Costituzione, perché la Costituzione prevede anche che ci sia il Parlamento a decidere che tipo di legge fare, no? E andiamo con Padova. Maria, vai, 800-24-0024, vai. Vai, oh. Pronto? Vai, Maria, dimmi. Buonasera. Dimmi. Ovviamente io volevo dire qualche cosa. Sì. Volevo capire innanzitutto la differenza tra mangiare un animale, sì, e mangiare la frutta e la verdura. Beh, una piccola differenza c'è naturalmente. Eh? Una piccola differenza c'è naturalmente. Quindi si tratta di un animale, la frutta e la verdura sono frutto del lavoro. Oggetti diciamo, inanimati. Ma si non chiama. Sono tutti e due che vivono? Respirano? Ma adesso c'è una teoria. La mela non respira, diciamo. No, io la mela. Non arrivo a dire che la mela può respirare. Adesso, francamente, non ci riesco. C'è una differenza. Scusa, non riuscirebbero a crescere se no? Sì, non sì, ha un'anima, diciamo, la mela, no? Ecco, insomma, non ha un'anima. Adesso non mi faccia dire però cose. Però c'è qualcuno che sostiene che anche le verdure abbiano un'anima, che anche la frutta abbia un'anima. Sì, scusami tanto, se è una cosa che cresce nella nostra vita. Scusa, quando tu tagli una verdura, la verdura indebolisce e muore. Sì, sì, ma io sono anche d'accordo con questa roba qua, non è che sia, cioè, non sono anche d'accordo col fatto che può avere anche un'anima, cioè, no, ci sono delle diciamo, non risponde agli stimoli, diciamo così, non ha un sistema nervoso, ma, cioè, vabbè, Maria, ragazzi, che vuoi ma dire di cosa con questo ragionamento? Oh, dai, su. Vabbè, ripensateci un po' e poi ne riparleremo un'altra volta. Un ma cosa vuoi ripensare a una cosa simile? L'aggiuntivo di qualcos'altro. Vai, allora, vai, dimmi, dimmi. Padre Pio. Padre Pio. Padre Pio, per me, sì, per la mia persona, sì, che ho vissuto 6 anni vicino a Padre Pio, un paese vicino, ero dalle sue, ma mi ha rotto le scatole. Considero però che Padre Pio ha fatto del pro e del contro, perché Padre Pio comunque ha fatto gli vabbè, ospedali, allora via dicendo. Questi ospedali non potevano andare alla gente che non pagava, che era povera, ma dovevano andare solo i ricchi, e questo era un po' così cos'ha. Dunque? Poi basta, Angela da Milano, Angela da Milano, vai Angela. Pronto? Sono io? Sono Angela. Sì, beh, fino a prova contraria sei tu. Sì, lei non può mai sapere. Intanto volevo fare quando uno parla sicuramente sei tu, Angela. C'è poco da fare. Scusa, sì. Scusa. No, volevo fare una premessa che intanto non sono né vegetariana né vegana, perché non potrei vivere senza il gorgonzolo. Senza il gorgonzola, cioè tu non se non hai il gorgonzola non vivi, non campi. Neanche le uova. Neanche le uova. Beh, dunque non puoi essere né vegetariana né vegetariana, no, sì, non vegetariana, sono vegetariana, sì. Però volevo fare comunque delle considerazioni. Sì, noi una, dai. Tutti, vai. Facciamo parte tutti di che, quale regno facciamo parte noi, del regno animale, no? Sì, tutto, allora? Anche noi. Tu prova solo a scottarti la prima falange del dito mignolo. del dito sì, sì. sinistro, neanche destro, sì. dell'olio bollente, che cosa senti? Cioè, che sento? È una cosa atroce, insopportabile. Cioè, sì. Dunque? È insopportabile anche uno che fa parte dello, facciamo parte dello stesso regno. Beh, sì, facciamo parte dello stesso regno, però non siamo la stessa cosa. Cioè, no, o, ma tu ho capito, pensi, ma o tu pensi che noi che ne so, e le aragoste siamo uguali. Cioè, gli uomini e le aragoste sono uguali. Siamo esseri senzienti. No, e basta con questa cosa, con questi esseri senzienti, io non ne posso dobbiamo più. Tenerne conti. Cioè, un grado in cui sentire persone che hanno un grado incommensurabile di ignoranza, che superficialmente, ignobilmente, sadicamente gridano che butterebbero dei granchietti nell'olio bollente. Beh, cioè, sì, c'è un sacco di gente che butta granchi e aragoste nell'olio bollente. Ma brividi le aragoste nell'acqua bollente, quello è acqua. Sì, ma spesso morte, cioè spesso morte, morte stecchite. No, buttano vive. Beh, anche vive nell'acqua bollente. Sì, le aragoste in genere, come tu sai, io non le mangio, ma come tu sai, se ne buttano vive. Sì, ma c'è una differenza. Le aragoste, come tu sai, io non le mangio perché non posso mangiarle. Ragazzi, ma le aragoste ho provato anch'io a mangiarle. No, io non le mangio. Sai che ti dico? Io non so se soffrono. Può darsi pure che gli studi possano dimostrare che soffrono. Ma chi se ne frega? Me mangio le aragoste. Mi mangio le aragoste. Il fatto che queste aragoste soffrono, me ne sbatto. Me ne sbatto. Sono sincero. Ma io non sono. No, amica mia, scusa. Io non sono come quelli che dicono, beh, sì, soffrono, però. No, io dico quello che tutti pensano. Cioè, ce ne fottiamo del fatto che le aragoste soffrano. Ce ne fottiamo. Perché è così? Perché è giusto che sia così. Crudeltà pura. È giusto. Ascolta, ma che vuol dire se ne può fare a meno? Miliardi e miliardi e miliardi di cose buonissime, lasagne, risotto alla milanese, risotto. Ma anche quella cosa lì sono frutto della sofferenza di qualcuno, indirettamente. La gorgonzola, le uova che si possono mangiare. Ma io mangio manzo, pollo, maiale, non solo. Beh, allora che sei vegetariana, pensa te. Beh, i polli vengono ammazzati, però non li uccidono quel modo sadico. Vabbè, ho capito, amica mia, è uguale, tu stai facendo la differenza, non è uguale, moriremo tutti, ma non a quel modo. È uguale. Cioè, è meglio estinguersi che nascere per morire però, ammazzati. Signora mia, il petto di pollo che lei mangia. Esatto, bravo. Sì. Non è adesso per carità. No, il petto di pollo che ucciso, cara amica mia. Io dopodiché sono un mangiatore di carne. No, però lei soffre per le aragoste. Dice che soffre per le aragoste. No. Probabilmente alla signora no, più che altro mi dà fastidio quella gente lì. Sì, che, ma ho capito, la signora Angela una sera. No, ma io dà fastidio il fatto della mano che prende l'aragosta viva e la butta nell'acqua bollente. Questo le dà fastidio. Ma no, con goduria, magari non con goduria. Uno prende il granchio, lo butta dentro, oppure dentro l'aragosta, mica con goduria. Ah, morite! No, semplicemente perché poi lo cuoce e ce lo mangiamo. Che è successo? Fermi, pubblicità. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Allora ragazzi, a proposito di Nino Manfredi, che ieri abbiamo fatto un po' di confusione, caro Davide, tra Nino Manfredi e là su quella canzone lì. Manfredi, che cosa avevo detto io? Lando Fiorini invece era Manfredi. È da qualche giorno che qualcuno mi manda continuamente questo pezzo di un film di Manfredi che era Testa o Croce 1982. Mi senti, pare che... Bruno Corbucci, il regista. No, ma è eccezionale, è una roba eccezionale. Senti, basta essere ignoranti, dobbiamo essere più comprensivi con i froci, avere un rapporto. A me il sindacato mica me l'ha detto. Ma perché non gliel'abbiamo chiesto? Voi pensate solo a Scalamobile. Lo dobbiamo far mettere sull'ordine del giorno come una cosa normale. Ma perché oggi essere froci è normale? Dobbiamo da essere più moderni, come i greci antichi. Per loro non solo non era un difetto, ma essere froci era una cosa da vantarsi. Ah, appunto. Appunto un par di coglioni, che ti pare che stavano nella Grecia antica? Era il 1982, voglio far notare. 1982, e non è che qualcuno si stupiva per l'utilizzazione della parola froci. Un altro pezzo, un altro. Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci. È una questione di X o di Y. Basta una X in meno, per esempio, ci hai fatto mai caso si quando scopi la mente? Come sarebbe? Si gemi, si fai qualche gemito. È un gemito di piacere. E te pare a te, e invece può essere che sei un ermaprocito con gemito. Enrico Ruggeri con noi, buonasera, buonasera, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Allora, caro Enrico, che facevi nel 1982? 82? Nell'80, beh, era un anno terribile per me, perché nell'80 ebbi molto successo con i Decibel. Poi andò male, poi invece i Decibel si sciolsero. Sei caduto in depressione? E sono, no, sono caduto da tutti i punti di vista, senza contratto, discografico, insomma avevo assaporato il frutto proibito del successo e poi lo avevo perso. Poi, grazie a Dio, poi dall'83 ho fatto una canzone che si chiama Polvere, da lì piano piano è ripartito. Sì. Caro Parenzo, perché Enrico Ruggeri qui? Innanzitutto perché si aggira sempre. Un momento, ho sentito Polvere, nella Polvere cadranno i padroni che governano questa radio, nella Polvere cadranno. Ma non cadranno nella Polvere. Dunque, come ebbi già a dire in un'altra trasmissione radiofonica, la trasmissione Falco e Gabbiano, dal nome indubbiamente di cattivissimo gusto, verrà sostituita con Falce e il Martello, il compagno Ruggeri, che compagno che salutiamo, compagno. Non so, magari non è campagna, non è compagno. Si esibirà, magari si esibirà, destra, so. Silenzio che parlo io in questo momento. Si esibirà in una trasmissione. Non sei ancora presidente di Confindustria, capace. Nella quale si parlerà di tecniche di guerriglia dal Vietnam ai giorni nostri. Non, ricorderete, non ha nessuna intenzione, Ruggeri, di fare una trasmissione. Tutti i giorni, una tecnica al giorno, dalle 18 alle 21. Tecniche di guerriglia. Ma quella è la zanzara, che c'entra? Non esiste più nessuna zanzara. Abbiamo già parlato con questo cosiddetto Squinzi, cosiddetto abbiamo detto, e anche con questo napoletano, che non si capisce, un napoletano che sta a Milano, peraltro, una cosa assurdamente paradossale e inutile, come hai detto. E di cognome fa napoletano. Li mandavamo via a calci nel sedere negli anni 60, questa gente qui, capito? Questi padroni. No. La cosa interessante è questa: il Vietnam, Ho Chi Minh, Nixon boia, via gli americani dal Vietnam. Vabbè, che cosa c'entra che adesso? Noi dicevamo negli anni 60. Non so se lo diceva anche questi Ruggeri. Valori allora, universali, vabbè, straordinario. Vabbè, grazie. D'accordo. Falco e Gabbiano, addio, compagno Ruggeri, Falce e Martello. Falce e Martello. Falce e Martello. Quando vincerà Capanna, diventerà presidente di Confindustria, dovrai trasformare il nome della tua trasmissione. Falce Martello. Allora, ma perché l'abbiamo chiamato? Perché io voglio che diventi, caro Parenzo, intanto cerca di rimediare a questo collegamento che ogni tanto entra di Capanna, perché solo da Roma può esserci questa falla nel sistema. Solo da Roma, solo da lì. Perché andrà a Sanremo, non so, per la 104esima volta. Decima. Perché cazzo, perché per la decima volta vai a Sanremo? Cioè io, guarda, intanto antropologicamente è molto divertente Sanremo. Cioè, ci sono decine di persone che si prenotano troppo sul serio, cialtroni, quando sei lì e ti sembra che tutto il mondo giri attorno a te, poi torni a casa e ti accorgi che non è così, che il mondo è andato avanti benissimo. C'è gente che si sente per quella settimana importantissima, sì, al centro del mondo. Anche la musica, che viene considerata un pochino marginale ormai nelle altre 51 settimane dell'anno, quella settimana lì si parla di album, di persone che altrimenti... Che scompaiono. Poi per quanto mi riguarda si fa in fretta, cioè in 15 giorni tu fai la promozione di 4 mesi, e siccome il tempo stringe nel mio caso io comincio ad avere la paura di avere più idee rispetto al tempo che mi rimane per metterla in pratica. Considerazione ha di Sanremo il bivincitore, no, di una vetrina, il bivincitore, perché ha vinto due volte, tu non lo sai perché sei ignorante, in realtà non lo so nemmeno io, sono più ignorante di te in musica, ma l'hai letto Ruggeri bivincitore? Sì, l'ho letto, lo sapevo, in realtà uno delle poche cose. No, vai avanti. Che no, poi sei capito? Gran paraculo di Ruggeri. Va a Sanremo. E con l'unico scopo, però lo dice, questo è sincero, di fare una grande promozione. Ma gli altri cantanti, perché due volte? No, ma in realtà ti posso citare decine di canzoni che sono arrivate ultime, hanno fatto grandi successi, canzoni che hanno vinto e delle quali non ci ricordiamo più. Quindi perché non sei entrato con la pelliccia? A parte che lui sarà il nostro, oltre che raccontare, saremo per Radio 24, naturalmente, però sarà anche per la prima volta, se tu volessi votare qualcuno, sappiamo chi votare. Io personalmente lo farò e invito tutti a farlo, naturalmente non conterà nulla, però il grande popolo della zanzara si schiera a favore di Ruggeri a Sanremo. Facciamo questa cosa di una scorrettezza pazzesca, assolutamente. E per tutta la settimana ce ne fregheremo, diremo votate Ruggeri, come vota Antonio, votate Ruggeri, perché vedere qui non succederà mai. Vedere qui, no, quella premio, che ci hai fatto con le due cose che sono sparite? Ma ce le ho, ce l'hai ancora? Ufficio. Sì, non te l'hanno ancora rubate, non le hai rivendute, no, in un momento di povertà? No, ma che povertà? Magari sei stato povero per un periodo, sì, ma prima di vincere. a Sanremo, dopo, ah, dopo non, sei, più, non più. Sì. Sei ricchissimo, secondo me, no. Sei molto ricco. No, ricco no, no, no. Beh, starà normale. Vivo dignitosamente. No, vivi adesso, non vivi, vivi, vive del suo, vive del suo, vivo del mio. Vivi del tuo, vivi molto bene, diciamo. Sei una persona molto è bello benestante. Io adoro Cruciani perché riesce a fare a tirar fuori il peggio dei suoi ospiti. Io ogni tanto in macchina vedo la trappola che sta arrivando. Allora sei ricco, no? Allora, 500.000 euro, no Ruggeri? 500.000, 800.000. E dico adesso ci cadrà. Con te, tu non... prendi i tuoi ospiti, li imbottisci di esplosivo, ma poi li getti nell'etere. Ma non funziona più. Cioè, ormai mi sono immedesimato nella parodia che mi fanno a Radio 2. Sì. E sai che fanno quella parodia a Radio 2? Bellissima, devo dire. Qualcuno dice, ma non ti offendi? Ma perché mi devo offendere? Quando fanno la tua parodia, certo, è straordinario. No, scherzi, no? È fanno quella parodia che ovviamente non funziona più perché si tratta di una trasmissione precedente, quando uno incalzava le persone e fargli dire le peggiori cose. Ogni tanto succede, ma siccome, come tu sai, se no non saresti venuto, è un gioco scoperto che ma tu conosci. Un'altra cosa, in questo momento rappresento anche un po' a tutti quelli che ascoltano la Zanzara. È bellissimo vedere questo, è un'installazione la Zanzara, è un happening, di là c'è gente che ride, passa fogli. Ma veramente lavorano, sono abbastanza stressati, non è vero che no, no, però è un'installazione. Sì, no, sono stressati perché gli rompo uno i coglioni. L'hanno ricoverato a neurologia. Non hanno ricoverato nessuno. Hanno ricoverato nella giornata e mi devi sciogliere però un dubbio, che è questo. Vedo che ti aggiri per Radio 24 con una pelliccia. È finta. Con è una finta. Pelliccia. Finta. Ma non è finta, non è vero. Finta. No, è confessa, fintissima. Adesso questo lo devi confessare. Non è finta. Non è finta. Non è finta. Finta. No, no, no, no, no, no. Guardami bene. Ma secondo te non io adesso, se anche fosse vera, no, io verrei qui. Certo. E da te perché se no dici una bugia. Perché so se beh, allora, beh, allora sei un bugiardo. Ma chi fa il nostro mestiere allora dici delle bugie. Dico le bugie. Dici sì, spessissimo delle bugie. Io sono uno dei migliori rivoltatori di frittate. E questa è una bugia, perché io so che questa pelliccia è vera. Tu indossi una pelliccia e dunque sarai un nemico degli animalisti. No, che odi un animale che ho ucciso personalmente. No, questo no. È vero o finta questa pelliccia? No, no, la pelliccia è finta. Però per esempio adoro la. Sono un bugiardo matricolato. Sono uno che... falso come Giuda. Sì, non voglio dire perché sennò da informazioni che ho preso di chi era questa pelliccia, però lasciamo come? Perdere. Perché era di qualcuno questa gerarca pelliccia. De... No, no, non lo so, no, qui... no. Però l'aragosta mi piace tanto. Se vuoi, uno scoop, no, non voglio l'aragosta, scoop, mi piace. Non voglio, no. Cioè non scherzo. Sei vegano. Lo scoop ecco. Potrebbe no, essere questo. Vegano. Ti sei mai fatto una canna in vita tua? Sì, sì, molte non canne. Ero, ma da ragazzo ero la più cocaina speed. L'hai provata? Sì, sì, ero più molta speed. Cocaina. No, no, però delle due mi piaceva la parte speed. E secondo te va legalizzata pure la cocaina? No, secondo me è molto pericolosa. Cioè, io ho visto sì, gente certo. Veramente distrutta. Certo, è pericoloso anche però, l'alcol, però anche la televisione. Però era fantastico anche le quando macchine. Uno si faceva di cocaina, no? Ma io credo che tutte le droghe, la maggior parte delle quali non ho provato, siano molto interessanti le prime 5-6 volte che le prendi. E dopodiché, sia la cocaina, l'eroina, per esempio. L'hai provato pure l'eroina? No, no, però, ahimè, sono di... l'eroina? No, no, però sono di una generazione che aveva... accompagnato. Però le prime 5-6 volte ti sembra a di San essere... Patrignano e anche ahimè sottoterra amici che si facevano di eroina e tutti dicevano la stessa cosa, questo meraviglioso rientro nel ventre materno delle prime volte che tu ti fai di eroina, poi a un certo punto arriva un momento in cui tu ti fai di eroina per essere pari, cioè per essere come io e te in questo momento e quando non ti fai più stai male, quindi è una trappola. Invece la marijuana così la legalizzeresti? Sì. Ma sì, cioè lo Stato che lo Stato che le vende. Personalmente non mi interessa, cioè non la uso, non mi piace, però mi la sembra ridicolo. Io credo che tra 50 anni rideranno di noi. Sì, molto, moltissimo, anche di noi, anche di noi che facciamo la radio, soprattutto di noi. Sì, no, rideranno di no, come, sì. Come oggi si ride. Vabbè, sul ragazzi, fatto che c'era lo ius corrigendi fino agli anni 60, per cui era lecito per il marito picchiare la moglie, delitto d'onore, no? Cioè, noi veniamo da un paese che insomma, fa i suoi passi un po' alla volta. Allora ragazzi, c'è il traffico, poi torniamo, eh? Poi torniamo con Ruggeri, vogliamo mettere un po' nei guai, non ci riusciamo, però va bene, ormai il gioco è abbastanza scoperto. Il traffico è il problema. La Zanzara. Allora, con noi Enrico Ruggeri, il nostro, come possiamo dire, portabandiera. Il nostro portabandiera a Sanremo, votate, non adesso, naturalmente, quando sarà possibile, per Ruggeri. Il nostro uomo che si infiltrerà nel Festival di Sanremo. Pensa se trionfa col nostro contributo, porta qui, no? Bellissimo, stupendo. Occuperemo militarmente. Purtroppo quest'anno c'è il televoto che mi penalizza un po'. Perché ti penalizza? No, beh, perché ci sono dei ragazzi che hanno, come dire, fonda il loro successo sul televoto, sono partiti al televoto. Ah, ragazzi, tu dici questi dei talent, cioè. E quelli che hanno dei fan compulsivi. Ma non è che ci frega quelli dei talent, noi siamo, no, per, niente, te. Noi siamo per te, che perché devi dare pubblicità ad altri? No, infatti non ho fatto nome. Cioè, una cosa sono gli altri, una cosa è Ruggeri, no? Ruggeri, no, portabandiera della Zanzara, di Radio 24, trionferemo contro la Rai, contro tutti, dai. Su, bisogna essere ottimisti, contro i poteri forti. Siamo scomodi. Ma sì, dai. Per esempio, se tu adesso ti proclamassi un po' renziano, siccome faresti un potrebbe essere positivo, Parenzo, o no, in questo momento? Cioè, uno no. dice, sono voto Renzi, o no? Salirei no. su un carro già molto affollato. Perché è un carro affollato. Cioè, affollato. Cioè, tu sei un po' renziano, no? No, no. Grillino dovrebbe essere. No, beh, ma no, io mi guardo attorno. Diciamo che dopo aver il periodo più lugubre della storia di questa del dopoguerra è stato, secondo me, Monti, no, Monti. Ah, Monti più lugubre addirittura. Ti sentivi in colpa ad andare a cena con la moglie a mangiare una pizza, dici, farò bene, oddio, cosa sto facendo, sto sperperando. Era il meno adatto allo spirito italiano, obiettivamente. Noi italiani siamo un po'... Vabbè, i peggiori chi sono ottimisti. Stati? Monti, lo mettiamo, poi Berlusconi. Vabbè, Berlusconi... mi piaceva molto la frase che disse Gaber quando diceva: io non temo Berlusconi in sé, ma temo Berlusconi in me. Non l'hai mai votato tu? Ma no, io ormai non voti, sono contrario al voto. No, come dicono tutti, non vado mai a votare, non ma voto no, nessuno. Ma non credo che la democrazia, non so quale alternativa proporre, ma la democrazia non è un sistema, non è un sistema. Che può funzionare. Ah, la democrazia non può cioè funzionare. Che tutti voi valgano uno, non ha senso. Cioè, secondo te tu e Gasparri non potete valere una cosa? No, adesso non facciamo casi personali. No, facciamo. Però effettivamente... io conosco della gente, vedo due persone parlare tra loro e dico, secondo me a questo gli diamo una scheda, a questo gliene devi dare almeno 20. Cioè, ci deve essere una differenza. Oppure ad alcuni nessuna scheda. Alcuni nessuna, secondo me. Allora, però non so contrapporre. È una ovviamente. Cosa di censo, è una cosa vergognosa. Ma non di censo, di testa, di superiorità, di snobberia. Pazzesco, sei molto snob. No, però io coi cervelli sono un po' razzista. Sì, cioè quelli, per esempio, i leghisti li consideri degli imbecilli, diciamo la verità. Guarda che dillo tu, i leghisti. Ma guarda che sei leghista. Sei pazzesco. Tu a Salvini lo considero un imbecille, dillo chiaramente. Assolutamente. Assolutamente no, però molti leghisti li consideri inascoltabili, un po' ritardati. In genere, diciamo che tutti quelli che estremizzano una area politica non sono i migliori su qualcosa così ma dai, ma ti sento tutte le sere. Per esempio te, a cosa accosteresti Gasparri? Signor Gasparri, tu devi sapere che se io cito Gasparri, tu dici qualcosa su Gasparri, poi tutto un casino pazzesco, bellissimo, una cosa meravigliosa. No, ma Gasparri già attacca, cioè, metà dei cantanti italiani passano più tempo a attaccare Gasparri che a fare i dischi. Per cui dimmi cosa su quando lo vedi in televisione, a cosa pensi? Ho paura per lui. Hai paura per lui perché cosa? Perché ogni tanto, cioè, tipo, non riconoscere Jim Morrison da una foto mi spaventa. Cioè, ti spaventa? E lui e il suo team, dico, è possibile che nessuno gli abbia detto, guarda che quello lì è Jim Morrison? Ma non ha un team, un... Gasparri. No, infatti, dici di no, fa tutto l'idea lui. Che Gasparri abbia un team, mi sembra... Di cosa hai paura? No, paura per lui, come quando vedi, non so, la vecchietta che sta attraversando la strada senza guardare, ti spaventi, adesso arriva una macchina la mette su. Che sbagli, è pietas, quella che provi un po' di pietà, no, di pietà umana. No, attenzione, pietà è una cosa, la pietas in senso è latino, in certo, senso certo. latino. Beh, solidarietà, no, però, non è la stessa. Vabbè, cosa. Adesso concludiamo con questo: è meglio vincere lo scudetto o Sanremo? Cioè, beh, ci sono stati anni in cui capitava allora, più spesso che io vincessi lo scudetto come interista, cioè che io vincessi Sanremo come cantante, che non l'Inter che vincesse lo scudetto. Allora dimmi un po', se tu dovessi scegliere questo 2016, mettiamo che sia possibile vincere Sanremo, noi pensiamo che sia possibile, che cosa scegli, lo scudetto dell'Inter o Sanremo? Forse lo scudetto dell'Inter, perché c'ha 22 in cazzo di aprile, 22. Meglio lo scudetto dell'Inter, dunque non vincerai né Sanremo e molto probabilmente nemmeno lo scudetto dell'Inter. Invece tra Napoli e Juventus chi preferisci che vinca lo scudetto? Napoli. Il Napoli tutta la vita. La Juventus ne ha rubati tanti, no? Ma guarda che sei impazzito. Ne ha rubati o no? Non riesci a dire tre parole. Cioè, quanti sono gli scudetti della Juve? Diciamola così. Quanti sono secondo te? Bravo, penso, vedi, hai fatto una domanda intelligente. Non so, 25, no, 18, Zeman diceva 18. Quanti sono? Cioè, no, quei due li ha rubati oppure quei due li ha veramente rubati secondo te o no? Sì. Diciamo che ci sono state, forse non era giusto darlo a nessuno, però insomma quegli anni lì sono stati un po' bui, però io tengo per il Napoli, al di là del fatto che ogni perché un interista non può essere, non può augurarsi lo scudetto alla Juve. Ogni cantante del nord ogni tanto deve dire che ama Napoli perché, per il pubblico ma quindi, al di là degli scherzi io ho goduto quando hanno vinto il Cagliari, il Verona, la Fiorentina, bene, cioè, perché sei per gli outsider. Sono per gli outsider, nella vita e nel calcio. Va bene, quanto ti stanno sul cazzo i vegani? Questo è un test, Zanzara. Quanto ti stanno sulle palle i vegani? Dimmi la verità. Sono pesanti. Io ho un amico, Red Ronnie, io in genere quando lo incontro proprio provo il desiderio di mangiare il goulash, di ordinare delle bracciole e lo faccio. Davanti a lui. Ciao Enrico. Ciao ragazzi. Ragazzi, forza, ciao, Ruggeri, a Sanremo e poi quando sarà il momento, grandi appelli. Se vinco divento vegano. Ciao. Ragazzi, un'intervista come vecchi tempi abbiamo fatto, eh? Come vecchi tempi. Ha detto: se vinco divento vegano. Non so se fa un regalo. Lo dice perché tanto pensa di non vincere. Noi gli facciamo lo scherzetto poi, lo facciamo vincere. Pietro da Brescia, vai, Pietro. Sì, ciao. Volevo dire che a fine settembre stavo missionando agli altri di una strada e la polizia mi ha fermato. In verità, e quant'altro, era notte, quindi non lo stavo facendo in maniera proprio plateale. Niente. Il problema è che ogni mese io devo andare a controllare il casellario perché è diventata attiuscendo il luogo pubblico e quindi in caso di presenza di un giudice particolarmente attento e cavilloso, violenza sessuale, se uno ha fatto attuscendo il luogo pubblico, può essere chiamato a testimoniare o dire in quel momento che mi trovavo a Firenze, a Roma, a Torino e quant'altro. E in realtà oggettivamente non ero. Cioè, che cosa stai facendo? Non ho capito. Stai facendo pipì in un cespuglio, giusto? Stavo facendo pipì su un albero, fondamentalmente, perché tornavo da un viaggio di lavoro. Si è fermata una pattuglia, documenti e quant'altro, mi hanno addirittura portato. Vabbè, ma queste sono follie, dai, su, hai spiegato. E che cosa è successo alla fine di questo procedimento? Io, siccome è una cosa particolarmente lunga, perché è un reato penale con una sanzione amministrativa, perché può essere depenalizzato con una sanzione amministrativa, bisogna andare a controllare sul casellario giudiziario ogni mese per vedere se io rientro in sanzione amministrativa o in atti uscendo in luogo pubblico. In caso di atti uscendo, sì, ma ragazzi, ma la gente non c'ha, io non capisco questi vigili, questi tribunali. Io ero basito perché pensavo che il vigile in quel momento mi stesse prendendo in giro. Quando mi ha detto: guardi che lei mi deve seguire, io ma dai, su ragazzi, su dai. Però poi mi sono documentato ed è diventato atti uscendo in luogo pubblico perché per andare ad inibire quelle che sono che ora era? Erano le 21:30, ero appena uscito dall'autostrada. Vabbè, Pietro, una follia, dai, ciao. La Zanzara. È 1:15 del mattino. Sto guidando da Monaco a Berlino e sto tornando a casa. Un sonno boia. Rischio di schiantarmi chiudendo gli occhi, ma morirò da uomo felice ascoltando la Zanzara. Grazie. Ragazzi, mi rimettete il messaggio di quella ragazza meravigliosa, quella voce pazzesca che ho sentito prima, che diceva che gli piacevo perché ispiro sesso violento. È fantastico, Parenzo, è veramente bella questa voce, eh? Sì. So che pagherò le conseguenze di questa cosa che sto per dire, perché il mio ragazzo ascolterà questo messaggio vocale, ma non riesco più a tenermelo dentro. Cruciani, mi ispiri sesso violento con quell'atteggiamento da stronzo. Ma come mai Parenzo ha delle occhiaie mostruose? Allora andiamo a Verona da Davide. Verona, vai. Sì, ciao Cruciani, sono Davide. Dimmi. Ascolta, io no, niente, vi seguo da anni, non sono mai intervenuto, sono un semplice ascoltatore, però ascoltando la dichiarazione di Toscani stasera non sono riuscito a trattenermi. Certo, prima di certo. tutto perché è una persona che non ha una minima conoscenza di quello che sia il rispetto della religione e il rispetto delle coscienze. Ma lui non la rispetta, però lo dice apertamente che non la rispetta. Pensa che sia tutta una follia, che sia fonte di ogni nefandezza dell'uomo. Cioè, non è che è una sorpresa questa cosa qui. Di che cosa ti sorprendi? Cioè, pensa che la religione sia una sorta di male assoluto e quello che pensa di Padre Pio va di conseguenza. Ma lui ha attaccato anche apertamente Padre Pio. Non conosce quello che ha fatto Padre Pio nella sua vita terrena, perché lui ha aiutato molti poveri, ha dato vita a una struttura. Ma lui parlava però soprattutto del business. Ignora l'esistenza. Lui parlava soprattutto del business che viene fatto sopra Padre Pio, cioè questo in particolare. Poi sì, ha parlato di mummia. Ha parlato di mummia, per carità, la follia di dei seguaci di Padre Pio, eccetera, eccetera. Poi ha detto anche che era un isterico. Adesso non sto citando un cardinale. Vabbè, queste sono considerazioni sue, ma voglio dire, se la maggior parte, una buona parte degli italiani ha una venerazione per Padre Pio, che cosa c'è di male? Dove sta scritto che non si può avere? Chi ha detto che non si può avere? Però uno può. Vabbè, ho capito, uno può avere la sua considerazione sul culto di Padre Pio, no? E sì, io penso che avere il culto di Padre Pio qualunque sia una roba da folli. E io penso che avere il culto di Padre Pio bisogna essere un po' ma sulla base di cosa dici questo? No, ma per il come avere il culto di qualsiasi altra cosa, non lo direi per Padre Pio in particolare. Cioè, lo direi di chiunque altro, non per Padre Pio. Cioè, la gente che va lì a toccare la salma, non quelli che allora, pensano. Secondo te che cos'è la normalità? No, ma non è questione di normale o anormale. Scusa, Davide, io sto dicendo semplicemente che uno che crede in Padre Pio, io non penso che sia pazzo. Uno che va però là a Roma a toccare, voler vedere da vicino la salma, ma non è solo un fedele, è un po' squinternato. Dai, ma su, allora ragazzi, vedi, vabbè, perché? Allora. Ma io so, ma sulla Davide, base di cosa? Allora, Davide, Davide, una considerazione oggettiva. Ma chi ha detto che è oggettivo? Infatti, la mia considerazione è Davide, penso di. Tu ammiri Padre Pio, no? Immagino. Io sono un cattolico, sono un tradizionalista cattolico e io ho una venerazione non solo Oddio, per Padre aspetta Pio. Un attimo, tradizionalista cattolico sarà mica da visto Verona, che è di sì, Verona. Sarà amico di Verona, sarà amica del gruppo di Ruggeri di Palmarino. Beh, conosco Ruggero, ma non lo frequento. Comunque non lo frequenti, ma anche tu pensi che i gay siano dei pervertiti? Ma è del Sacro Imperium anche lei? No, pensi che i gay siano dei pervertiti, però? No, non ho mai pensato che i gay pensi siano che siano malati? No, neanche questo. Neanche io sul, questo. Sul DDL in discussione. No, ma lascia perdere, parlare. I gay, che cosa Vabbè. Sono secondo te? Malati, che cosa sono? No, i gay sono delle persone normalissime che hanno una tendenza sessuale diversa da quella della normalità. No, da quella della normalità che vuol dire? Beh, la natura mi insegna che uomo e donna creano una famiglia. Per cui sono anormali. No, non ho detto che sono anormali, ho detto che sono delle persone che non rientrano nel canone naturale ma di quello che è. Ma non è vero, cioè, non è così. Cioè, sin dall'antichità c'erano persone che si inchiappettavano tra di loro e che andavano con uomini, con donne, eccetera, bisessuali, trisessuali, pansessuali. Di che stiamo parlando? Cioè questa allora, cosa della natura, che vuol dire? Spiegami come la natura può aiutare a progredire il mondo in assenza di una famiglia eterosessuale. Ma nessuno vuole negare la famiglia eterosessuale. Ma comunque abbiamo adesso parlato di un'altra cosa. Su questo. Comunque, quello che ti voglio dire io è che tu non mi puoi sarebbe Toscania normale. Dire. Poi sarebbe Toscania normale. Dai, ma su. A mio piacere. Ma ascolta, ma come puoi dirmi che uno che è un seguace di un santo, di un uomo di religione, come ha detto anche Parenzo, ma è una persona che va rispettata. Sulla base di cosa tu mi dici che è una scoreggia? Sulla base di cosa tu mi dici che chi segue un santo, chi segue quello che ha fatto nella vita un santo, non rientra nei canoni della modernità, dell'avanguardia, del progresso? No, ma chi ha detto questo? Nessuno dice questo. Dico semplicemente che secondo me chi va lì, tu vai lì a toccare la salma di Padre Pio? Vai in fila là, passi ore e ore per vedere il volto di Padre Pio? E allora? Ci vai o no? È una cosa abominevole. Nessuno dice abominevole. Che è da condannare? Per me io posso giudicare questa cosa qui come una forma di credenza medievale o no? Cioè che fa parte di un mondo assurdo o no? Ma qualcuno si offende si offenderà e chi se ne frega? Ma perché? Vabbè, perché allora se vi piace la gente che va in processione e va là a toccare la salma di Padre Pio, beccatevi questi qua che sono in fila per Padre Pio. Ma che ti devo dire io, Davide? Cioè, se vi piace così, che ci posso fare? Allora, voglio presentarti un grandissimo personaggio, caro Parenzo, un personaggio nuovo per la Zanzara. Leggo sul giornale di ieri, ho visto il fantasma di Teodolinda. Monza gli acchiappa entità, non hanno dubbi. La regina Longobarda è apparsa in centro. Certo, grande inchiesta del giornale. Aspetta, no, non è, veramente Corriere della Sera. Ah. Con camici bianchi e tracciatori a raggi gamma hanno inseguito 16 segnalazioni di Teodolinda. Allora, stiamo parlando con Massimo Merendi, personaggio straordinario, presidente della, lo dica lei Merendi, National Ghost Uncover, che come sente dal mio raffreddore, quando non acchiappiamo fantasmi, acchiappiamo raffreddore e mal di gola. Cioè Ghostbusters praticamente. E va già molto bene che non acchiappiamo cose peggiori. Tipo le zanzare, insomma. No, le zanzare ci pensa la presidente del Brasile, ha mobilitato 200.000 uomini contro la zanzara. Ah, acchiappare qualche cosa che dice malattie venere, magari. Sì, è per no? quella famosa malattia. No, no, acchiappare qualcosa di classico ormai in questi tempi. Cioè, che cosa? No, mi scusa, niente, non ho capito la metafora. Non ho era una metafora. Ah, acchiapparlo quello da dietro, diciamo, prenderlo dietro. Capita quando uno meno se lo aspetta. Tu dici che ti do del tu direttamente, Massimo, diamoci del tu. Va tanto bene, vi ringrazio, anche se sono preoccupato. Perché cosa? Di prenderlo in quel posto? Di che cosa? Sì, da voi, perché i miei amici mi hanno detto, ti chiama la zanzara, sei finito. Ma e no, questo, ma c'è questa leggenda già. Nera, c'è questa leggenda nera assurda che noi mettiamo... Io credo alle leggende. Sì, lo so che tu credi alle leggende nere, però in questo caso ti assicuro che non è così. Al massimo possiamo usare dell'ironia per quello che tu fai. No, ma fammi capire una cosa. Praticamente questo qui, hai presente il film Ghostbusters? L'hai visto tu? Tu conosci solo questa cosa qua. Beh, sì, no, certo, lo conosco, sì. Non l'ho mai visto. Ecco, appunto. Mi devo scioccare, non l'ho mai visto. Però lui praticamente si occupa di fenomeni paranormali. No. Spiegaci quello che fai, Massimo. Innanzitutto perché noi siamo nati per studiare tutti questi fenomeni in Italia, ma non per dimostrare obbligatoriamente che esistono. Metà degli amici dell'associazione non credono a nessun fenomeno paranormale. Sì, però tu vai in giro per Monza a cercare il fantasma di Teodolinda e dici di averlo anche visto. 16 persone, di cui una sola che l'ha sentita parlare, hanno visto, credono d'aver visto, pensano d'aver visto o dicono d'aver visto qualcosa. Hanno bevuto un bicchiere di Barolo di troppo. Teodolinda, ma noi non l'abbiamo vista. Sì, però mio cugino Gabriele, di cui non farò il cognome, vive a Monza. Non mi ha mai parlato di questi fenomeni, diciamo, di Teodolinda. È un uomo che non gira per il centro. No, gira. Gabriele, non dirò il cognome. Sarà Gabriele Parenzo. No, è un altro. Gabriele, che ascolta sempre la radio. Non vuoi dire il nome di battesimo, Gabriele? Non vuoi dire il nome di battesimo? Non vuoi dire il nome di battesimo. Il cognome, perché magari lui non vuole. Però Gabriele, mio cugino, che abita a Monza, non mi ha mai parlato di Teodolinde che girano per la Villa Reale. Ti manca lui. Qualcosa. Poveretto lui, pensa a te. Scusa, Massimo, voglio capire una cosa. Al massimo sei un leghista, ci sarà al massimo. Ho visto delle foto dove tu sei in camice bianco insieme ad un altro, credo, della tua associazione. Sì. Tu addirittura con una specie di Panama io sono un collezionista di borsalini. È un borsalino bianco. Vabbè, insomma, con camice bianco ti aggiri con una sorta di strumento per vedere, per pizzicare sto fantasma, o no? No, quello no. Sono cos'è? Strumenti che usiamo a esclusione che non ci siano fattori tecnici. Ma è un tracciatore di fantasmi, tipo. Cos'è? Nessuno strumento rileverà mai un fantasma. E allora che cos'è quella roba che hai in mano? Un tracciatore? Quello serve a escludere. Quello era uso giornali, perché quello reale è attaccato a un macchinario in un furgone. Avete fatto la finta. Sono andati nei giorni scorsi. E che è andato a fare col furgone? Serve a dimostrare che non ci siano interazioni nelle migliaia di antenne, di cose varie che interagiscono. Ah, perché? Per avere la presenza, per sentire la presenza di un fantasma. Quelli non segnalano la presenza. Avevo anche un apparecchietto americano che vendono, che segna i fantasmi se ci sono, segna sempre in casa mia, quindi, e non ne ho mai visto. Fino adesso che cosa avete visto allora? Mi sorge a Monza? A Monza purtroppo stiamo raccontando quello che dicono d'aver visto altri, altrimenti avrei detto ho visto io il fantasma. Fatemi capire, con tutto il rispetto. No, con tutto il rispetto fatemi capire. Cioè, vi dica Merendi se ho capito bene, perché adesso mi girano i santissimi. Faccia capire. Figuriamoci. Stiamo parlando di un signore che legittimamente fa un'associazione. Benissimo. Sì. Anziché giocare a 3-7, a carte, a risico, anziché andare a prostitute come Cruciani, benissimo. Ma io non ci sono. No, no, no, no. no, si traveste, si mette un panama bianco con degli amici. Va bene, si mette un panama bianco con degli amici e passa la notte a girare per Monza alla ricerca di questa Teodolinda. Ho detto corretto? Sì, vi per dico ora. Una cosa c'è peggiore. Anche un macchinario. Aspetta, peggiore, ci vuole dire una cosa peggiore. Qual è vi la devo cosa? Dire una cosa peggiore, sì. Che non potrò svelare che fra 15 giorni. Sì. In questi ultimi 4 giorni sono stato, e questo la dice lunga sul mio stato mentale, sono stato per 18-19 ore, 4 giorni consecutivi, in un'area umida e fredda, per una cosa molto particolare in cui ho avuto la sfortuna, in questo caso posso dire, di essere io uno dei testimoni, per cui fra 10-15 giorni ma dovrò raccontare una cosa confutando me stesso. Ma che cos'era ancora questa cosa? Scusa, questo non diciamolo. Dirlo, non voglio farvi perdere. Non sarà Fatima, insomma, non sarà il segreto, non credo che sarà Fatima, per cui possiamo rivelare qualcosa. No? Cosa avrà visto? Il livello è quello. Cioè, sei un po' matto o no, Massimo? Diciamo, ti consideri... Nessuna persona folle riesce a valutare se stessa, come posso? Tu dici, la follia ci potrebbe essere... Sono stato folle accettare un vostro giornalista intelligente e buono che mi ha costretto alla zanzara, io ignaro, vedi? Ma no, ma che è successo di grave? Che è successo di grave? Mi hanno raccontato di persone uscite distrutte. No, possibile. Questo non è possibile. La Teodolinda è distrutta. Ma io ho una fortuna, sì. Avendo una ragazza giovane, ricca e nobile che mi mantiene a Monte Carlo, cosa voglio più dalla vita? Ma che te frega allora, scusa, che tanto anche se dovesse succedere qualcosa c'è sempre ecco, questa il qua. Mio cugino se Gabriele se qualcosa alla zanzara dice... l'importante solo è che lei non lo capisca e non rinsavisca e mi molli completamente. Scusami il un mio attimo. Adorato cuginetto Gabriele capita a Monza, mi dice spero di non incontrarlo, giustamente. Scusa, giustamente, ma è vero che Claretta Petacci è vero che hai scoperto che Claretta Petacci ha tenuto comizi a Salò? Purtroppo in periodo elettorale, nei 6 anni in cui è nata l'associazione, fantasmi noti o ignoti o supposti tali tengono comizi incredibili, ma non è solo questo. I fantasmi tengono comizi. Cioè, non ho capito, hai sentito il fantasma, hai visto il fantasma di Claretta Petacci? No. E allora come fai a sapere noi che ha tenuto comizi a Salò? Tutti questi che ci contattano e ci raccontano le loro storie. E noi dopo averle depurate le andiamo a raccontare. Una di queste storie contatta chi non capisco. Una di queste storie che Claretta Petacci ha tenuto comizi a Salò. Sì, 3 anni fa. Sì. Ma chi l'ha detta sta roba? Perché uno della sua associazione. Una ventina di persone in un pullman evidentemente molto ispirate. Una ventina di persone della sua associazione. Aspetta, e che a Mantova appare periodicamente una pecora blu? Ah, questa è la cosa più bella che mi sta nel cuore. Cioè? Ogni tanto vado a Mantova, perché io, essendo stato in un'estanzia in Argentina, proprio a dormire con delle merigno sotto un diluvio, so quanto sono buone quelle pecore. E compare una merigno azzurrina, dicono, che bela nella notte. Questa è la cosa più bella che me l'avranno colorata, cioè, di blu. Sempre altri raccontano, no? E tu riporti, altri tu non l'hai mai vista. Io purtroppo fra 15 giorni dovrò riportare una cosa vista e toccata da me. Questo è il mio dramma, altrimenti sono... Tra 15 giorni ti ricontattiamo sicuramente. Vedo anch'io qualcosa qua. Ovviamente, quello che non perdo stasera lo perderò fra 15 giorni. Vedo allora, praticamente qua. Gli è stato riportato da questi suoi affiliati che Claretta Petacci... No, ferma. È da chi? I soci, che sono una novantina in 20 gruppi, interagiscono nelle ricerche. Vabbè. Ci ha riportato da tutte persone esterne, non da affiliati. Noi non nasciamo per dimostrare che esistono i fantasmi. Studiamo il fenomeno, non tutte quelle cose. E quando un'associazione nasce... Comunque. Claretta Petacci, chi l'ha vista che ha tenuto comizi a Salò? L'hanno vista un pullman, deduco, di nostalgici, di più di 20 persone. E la pecora blu? E la pecora blu a Mantova? Ma ubriachi, ragazzi, ma di che parlate? Apparentemente un centinaio di persone negli ultimi 7 anni. Una pecora blu che è stata vista. Ma solo una botta in testa, dai, su. Il fantasma di Teodolinda, meraviglioso. No, però non si colpisce mai una pecora blu, anche se fantasma. Il fantasma di Teodolinda. È sotto la mia protezione. Vabbè, tra 15 giorni ci potrai rivelare qualcosa di clamoroso che hai visto? Purtroppo sono imbarazzato, sorpreso, e io stesso dovrò iniziare quando parlerò dicendo, vi premetto, che confuto quello che sto dicendo, perché ho dei dubbi io stesso.